È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui alle 18.34, gentili ascoltatori, numeri per chiamarci. La diretta è il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, lazanzara@radio24.it. Andiamo a sentire subito i primi telegiornali, TG2. Resta attesa la situazione a Rosarno dopo la rivolta della notte e le manifestazioni di protesta. Arrestati 7 immigrati e 2 italiani, sassi contro la troupe del TG2. Dal prossimo anno scolastico scatterà il tetto del 30% per gli alunni stranieri nelle classi. Il ministro Gelmini, un limite introdotto per evitare le classi ghetto. Condannati a 16 anni di carcere ciascuno i 4 rumeni accusati di aver stuprato una ragazza di 21 e picchiato il suo fidanzato a Guidonia, l'aggressione un anno fa. Il maltempo imperversa sull'Italia, nevica al nord ma la temuta paralisi non c'è stata. Al centro allerta per i fiumi, con il Tevere in piena a Roma sotto stretto controllo. Bene, i titoli anche di Studio Aperto. Spari, caos e tensione, la rivolta degli immigrati scatena la guerriglia a Rosarno, Reggio Calabria, scontri con la polizia e con gli abitanti, 32 feriti, 6 arresti, la gente esasperata urla se ne devono andare, Maroni, troppa tolleranza. A scuola arriva il tetto per gli alunni stranieri, non più del 30% per ogni classe. Il provvedimento a partire dal prossimo anno. Così favoriamo l'integrazione ed eliminiamo i ghetti, dice il ministro Gelmini. Neve nel nord Italia, mezzo metro nel Savonese, 600 km di autostrade imbiancati, circolazione difficile. Eccoci qua allora, vi ripeto il numero 800 24 0024 e con cosa iniziamo? Il Berlusconi, dalla Provenza, come titola oggi da Gospia, più liscio di una vasca da bagno, senza lividi né croste, la faccia priva anche di arrossamenti e di gonfiori, ma non aveva la frattura del setto nasale, 90 giorni di prognosi. Insomma, si legge che cosa? Si legge un sacco di dietrologia, di cospirazionismo su internet, soprattutto dietro la miracolosa guarigione del Premier. Dunque si va dai violini, dalle strimpellate di Emilio Fede, sentite. A proposito di ritorno in pubblico, abbiamo delle immagini che sono state pubblicate, delle foto, poche foto, due ne proponiamo, che sono state pubblicate dall'autorevole quotidiano della Francia, che si chiama Nice Matin, foto che mostrano per la prima volta ristabilita in piena forma il Presidente del Consiglio dopo l'agguato che poteva costargli la vita. Allora vediamo la prima. Il capo del governo posa volentieri con alcuni bambini che lì in una strada dell'antica cittadina di San Paul de Vannes lo hanno riconosciuto e hanno chiesto di potersi fotografare con lui e ottenere, come hanno ottenuto, l'autografo. Seconda foto. Il Presidente del Consiglio in compagnia della figlia Marina attraversa la piazza centrale di San Paul de Vannes. E questo è l'Emilio Fede di ieri. E poi si va ad un altro eccesso, il cospirazionismo, il complotto, chissà cosa è successo, forse non era così grave quello che ha subito Berlusconi, com'è possibile che adesso, come ci ha raccontato l'altro giorno Francesco Storace, sia liscio, completamente libero. Oggi era il primo giorno senza fasciatura, senza bende al volto. L'ho trovato liscio, per dirla in linguaggio, diciamo, cronachistico. Credo abbiano fatto un buon lavoro i medici. È già stato in Svizzera? No, in Svizzera non nemmeno ci va. Cioè, credo che abbia fatto tutto quanto con quel dottor Raffaele. Un paio di giorni fa, dunque prima dell'apparizione di Berlusconi, sentite cosa ha detto l'europarlamentare dell'Italia dei Valori, grillina, di pietrista, eccetera, Sonia Alfano. Cosa ha detto? Prendendo, secondo me, un clamoroso abbaglio e rivolgendosi addirittura al Presidente della Repubblica. Sentite un po'. Presidente, io vorrei che lei si dedicasse, lo so che le chiedo probabilmente troppo, però magari sia un attimo di tempo, a guardare un video che circola su internet. finché decideranno di farlo circolare. È uno spezzone di un programma trasmesso da una televisione tedesca e che ha avuto il coraggio di dire quello che in Italia tanti pensano, ma che nessuno ha il coraggio di dire. Questa televisione tedesca dice, suppone che l'aggressione a Berlusconi sia stata tutta una farsa. Beh, Presidente, io la invito a guardare questo programma, a chiedere magari delle spiegazioni, perché ovviamente è un'accusa enorme, stratosferica, perché se così fosse, significherebbe che qualcuno ci ha preso in giro in maniera veramente straordinaria, ma soprattutto ha preso in giro lei, Presidente, e quindi noi abbiamo il diritto di conoscere la verità e abbiamo il dovere di difendere le istituzioni da attacchi spietati. Attacchi spietati, prese in giro. Presidente, guardi questo video. A parte che non credo che il Presidente della Repubblica abbia il tempo di guardare un video della televisione tedesca. E poi forse io ho visto questo video. Cara Sonia Alfano, di cosa stiamo parlando? In quel video non c'è nulla, è una trasmissione satirica, si chiama Harald Schmidt Show, una sorta di David Letterman Show, in cui si ipotizza, ma è una trasmissione satirica, ripeto, si ipotizza che esista un nuovo film di Oliver Stone in cui c'è il complotto di Berlusconi, il complotto ordito da Berlusconi per far credere di essere stato colpito. Oliver Stone ist der Meister des politischen Films. Sein Meisterwerk JFK zeigte, dass die Ermordung von Kennedy eine Verschwörung war. Auch sein neuestes Werk enthüllt eine Verschwörung. Berlusconi. Ma si può sbagliare, naturalmente. 800 24 00 24. Comunque su internet impazza la dietrologia su Berlusconi e come mai sia uscito così pulito, con la faccia liscia. Dopo quello che è accaduto, qualcosa, secondo i complottisti, non funziona guardando i tempi che erano stati annunciati per la sua guarigione. È come se qualcuno poi non fosse contento della guarigione fino in fondo di Berlusconi. Chissà. Intanto Alba Parietti, dopo... Per carità, è sempre stata in televisione a dire la sua sull'universo mondo, e va benissimo, chiunque può invitare e andare nelle trasmissioni che vuole, naturalmente. Però dopo l'uscita dei 9 miliardi rifiutati a Berlusconi, subito è stata invitata ad Anno Zero. Risentiamo naturalmente i 9 miliardi. Mi offrì all'epoca 9 miliardi. 9 miliardi nel 94. Nel 94 sono tanti. Parliamo di vecchio conio, sì. Io, completamente cretina, rifiutai perché invasata dal mio filosofo, gli uomini non sono fatto danni. Stefano Bonaga, che naturalmente faceva l'uomo di sinistra con assessore comunista a Bologna. Sì. E quindi mi disse: no, tu non puoi firmare con Berlusconi perché tu sei una donna di sinistra. E questo era questa era Alba Parietti qualche giorno fa. Ieri sera ad Anno Zero si permette, per carità, ripeto, va bene tutto, anche Alba Parietti può diventare la più grande opinionista del secolo. In questo modo prende in giro Bersani dicendo: siccome non era presente nelle barzellette di Natale, sapete, quelle che vi arrivavano attraverso gli SMS, allora non è nessuno. C'erano Berlusconi, c'erano Di Pietro, ma Bersani è sostanzialmente ignorato, non è un leader credibile perché non è citato, non è conosciuto, non è il vero leader dell'opposizione. Se io ho un ragazzo di 15 anni a casa, di 14, di 12, uno che non abbia a casa qualcuno che gli parla di politica, questo sa chi è Berlusconi di sicuro, sa forse chi è Fini, sa sicuro di chi è Di Pietro, che è praticamente il competitor alla fine, perché si è inventato questo ruolo che, come dire, che gli dà un grande lustro comunque, perché quando giravano le barzellettine natalizie, ti ricordi chi è quel mio portai quest'anno, la Befana mi ha portato via, il mio cantante, c'erano Berlusconi e Di Pietro. Quest'anno un po'. Non c'era Berlusconi e Bersani. Allora, se non c'era neanche la barzelletta Bersani, vuol dire che purtroppo... diamogli il tempo. Ho capito, ma facciamolo entrare nelle barzellette, perché se non entri neanche nella barzelletta vuol dire che non sei. Se non entri nelle barzellette, non sei. Queste perle di saggezza distribuito a Alba Parietti ieri sera ad Anno Zero. E poi c'è il solito mantra recitato in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, potremmo dire, già fatto, già cantato questo mantra da Fiorella Mannoia e ripetuto anche dalla Parietti: mi riconosco in Fini. In che cosa poi si riconosce in Fini non lo dice mai, però si riconosce in Fini, non fosse altro perché si oppone a Berlusconi. Sentite. Quando Fini fa discorsi più di sinistra di quanto la sinistra stessa faccia, per quanto mi riguarda c'è da preoccuparsi. Io alle volte, io mi riconosco in AN alle volte, e questo mi preoccupa. Mi preoccupa. Non l'avrei mai potuto pensare quando ero piccola questo, certo, se lo dicesse a mio padre si rivolterebbe nella tomba da ex partigiano, ti dico. Vabbè, non glielo diciamo. Non glielo diciamo, aggiunge un po' ironicamente Santoro. Sempre a proposito di Anno Zero di ieri sera, vi faccio ascoltare una discussione, un litigio tra Castelli e Marco Travaglio. Per dare ragione, devo dire, a Travaglio in questo caso, perché c'è una fissazione che è quella: quando qualcuno interviene sulla parola dell'altro mentre un altro interlocutore, un altro ospite sta parlando, di dire no, fammi finire, non mi interrompere, non fare il maleducato, non è così che si discute. Dove sta? Esiste una regola assoluta come si discute e come non si discute? Perché i talk show devono essere necessariamente una successione magari interminabile di interventi solitari? Sarebbe una noia terribile. Viva le interruzioni! La politica ha un costo, la politica è democrazia. Pagatevelo. Allora, no, certo. Pagatevelo. Benissimo. Ma ragazzi, voi applaudite, vuol dire che la politica... Pagatevelo. Se fosse gratuita potrebbero fare soltanto... Avete sempre il popolo in bocca. Avete sempre il popolo in bocca. Io l'ho interrotta. Ha abolito Io l'ho interrotta. Ma il popolo. Io lei l'ho interrotta. Sempre il popolo. Anche le in Padania. Le sia più educato, per cortesia. Anche in Padania se vogliamo il popolo cominciare, se vogliamo cominciare a dibattere, sia più educato. Ma io sono educatissimo. No, allora in pareducazione non interrompa. Il popolo vi va bene a giorni alterni. Io l'ho interrotta. No, allora per favore mi lasci parlare. Oppure ha paura di quello che sto per dire. E allora è benissimo. Sto tremando. E allora stia calmo, lei ha parlato, ha detto le sue cose, adesso lasci dire le mie. Mi pare. No? Credo che sia questa la democrazia. Forse voi avete un'altra idea, voi ci volete tutti in galera, no? Questa è questa. Ecco, qui è così, benissimo. Si fa così. Siamo qui alle 18.46, 800 24 00 24 per chiamarci ascoltatori, primi ascoltatori della serata. Andiamo a Milano, Gennaro. Buonasera. Pronto? Buonasera, dica. Buonasera, signor Cruciani. Senta, io volevo parlare per le regionali della Puglia. Sì. Io volevo dire che sono un elettore del centro-sinistra. Sono contrario all'accostamento di Boccia anziché a Vendola. Perché penso che Boccia sia un candidato di Casini, e a me non mi sa, a parte tutti, che non mi sa bene che noi dobbiamo per forza accollarci Casini per i suoi voti, una volta con la destra, una volta con la sinistra, a parte quello. Mm. Ma poi ieri... Cioè mi pare di capire, Gennaro, mi scusi se la interrompo, che sì, lei è un elettore del Partito Democratico, no? O sbaglio? Sì, io sono un elettore del Partito Democratico. Non le sta bene il fatto che il Partito Democratico voglia, tra virgolette, scaricare il presidente uscente Vendola per imbarcare l'UDC, è così? Sì, ma io non trovo giusto, perché Casini si deve decidere con chi stare all'opposizione, non è che può fare una regione con la destra, una regione Beh, con la sinistra. Sì, lo può fare perché appoggia il candidato che vuole, il candidato che gli sta più simpatico, il candidato che è più vicino alle sue politiche, eccetera. Mi scusi, posso? Sì. Dica. No, a parte questo, si è vociferato, io ieri ho ascoltato una radio, non la vostra, che diceva che Casini era preso da Boccia, perché a parte che il suo... Che significa preso da Boccia? Mi scusi. Sì, no, vuol dire il suo candidato, perché... Ma non è il suo candidato, è il candidato del Partito Democratico che l'UDC potrebbe appoggiare, non sì, è il suo candidato. Comunque Boccia è uno dell'altro, diciamo... della parte di Casini, diciamo così, com'è. Ma non è dalla parte di Casini, ma Boccia è un esponente, diciamo, moderato del Partito Democratico. Dalla parte di Casini, vabbè, che significa? Si vocifera che... Che si vocifera? Che in Puglia, datosi che c'è quel famoso acquedotto... L'acquedotto pugliese, sì. Che c'è? Che è uno dei migliori, è migliore. Mm. Allora si vocifera che gli interesserebbero come privatizzazione, datosi che il suocero... di Casini vabbè, guardi, non lo so se gli interessa, se a gli imprenditori vicini a Casini o vicini all'UDC gli interessi particolarmente la eventuale privatizzazione dell'acquedotto pugliese. Francamente non sono informato su questo e non so quali manovre ci siano dietro dietro gli accordi tra PD e UDC in Puglia. La ringrazio. Gennaro, Marco da Milano, buonasera. Buonasera. Intanto, beh, complimenti per la trasmissione, ma sarebbe inutile dirveli. Mi piace molto la vostra comunque linea editoriale di cercare comunque di dare sempre spazio all'opinione di chiunque. Non mi è piaciuta moltissimo invece l'apertura che avete fatto oggi, soprattutto la sua apertura, cioè il senso è quasi lo schernire quello che viene girato sulla rete. In realtà io che amo l'informazione nel suo complesso, qualsiasi essa sia, che sia informazione corretta naturalmente, utilizzo molto spesso la rete per cercare l'informazione o per cercare la controinformazione o l'informazione diversa o l'opinione semplicemente diversa, per cui ritengo che la rete faccia un ottimo servizio. Poi purtroppo ogni tanto qualche... Scusi, io non capisco ancora che cosa significa la rete, perché la rete può essere tutto e niente. Nella rete ci sono tantissime cose. Quando qualcuno mi dice la rete mi spavento. Che vuol dire? La rete è la rete, cioè. Ma non è la rete, nella rete ci sono tante cose, ci sono delle stupidaggini sesquipedali e ci sono delle cose serie. Ci sono delle stupidaggini incredibili, c'è un'informazione eccezionale. Beh, vabbè, ecco, diciamo così. È la rete. Ho capito. Come la differenza forse che c'è nella rete è la possibilità di potersi cercare anche cose che normalmente non si trovano, non ci vengono dette, non si fa fatica a trovare o sentire o cose di questo genere. Su questo non può che non essere d'accordo con me. Ma sì, alcune volte ci sono delle cose che non si sentono, altre volte ci sono... Un attimo, con un po' di tempo, purtroppo ce ne vuole anche lì, purtroppo, sì. Con un po' di tempo a disposizione è giusto utilizzare la rete anche per cercarsi di trovare quelle informazioni in più o diversa o più condita confronto all'informazione che ci viene normalmente data. Diciamo che è così, allora? Principali, no? Diciamo che è così, allora? Bene. Anch'io ho il filmato di cui parlava lei su Berlusconi, per esempio. Quale filmato? Anche a me quel filmato che gira in rete su cosa è successo durante, diciamo... Ma è il filmato della televisione tedesca? Anche quello, ce ne sono anche altri, non c'è soltanto quello. Sì, il filmato, vabbè, ma questo qua è prima che Berlusconi si levasse i cerotti e le bende dalla faccia. Esatto, dai primi giorni. Escono fuori. Ce ne sono anche addirittura alcuni proprio sul fatto, quando è accaduto. Sì, allora? Che danno delle... Ho sentito in alcune trasmissioni, visto tanto comunque voi la fate sentire anche spesso, che hanno zero alcuni interventi da parte di uno che si occupa di sicurezza a livello nazionale, che diceva che il comportamento della sicurezza è stato assolutamente scandaloso. Ora, o Berlusconi non ha dei professionisti a suo carico, o comunque a qualcuno giustamente può venire il dubbio, non la certezza. E su questo lo consenta alla gente. Ma chi ha detto il contrario? Scusi, Marco, io ho semplicemente detto una cosa. Nel suo intervento iniziale, quando parlava di questo, mi è sembrato che il suo atteggiamento nei confronti di questo, di questo, ma come di altri, adesso stiamo parlando di questo, ma è semplicemente un caso. In questo caso qua, un po' come se ciò che si trova, la mia sensazione è stata quella, ciò che si trova nella rete... No, ma non c'entra niente la rete, io ho parlato della rete ed ho parlato quello che si trova sulla vicenda Berlusconi, cioè... Adesso ho sulla vicenda Berlusconi. Beh, certo, io lo ribadisco, scusi un attimo Marco, ribadisco che tutto quello che si trova sulla rete intorno al complotto, la cospirazione... Berlusconi in realtà non è stato ferito così gravemente, addirittura se l'è cercata o se l'è fatto da sola quella ferita, il sangue, eccetera eccetera, cospirazionismo sollecitato in queste ore dal fatto che la faccia di Berlusconi è pulita è qualcosa di ridicolo, lo ribadisco qua, ma non c'entra niente la rete in questo caso. Scusi, ma io sinceramente non capisco perché da parte sua lei lo chiama immediatamente complotto. Cioè, può semplicemente l'idea di un complotto, ma non c'è nulla di strano, ma che c'entra il complotto? È perché chi scrive queste cose pensa che ci sia stato un complotto organizzato dallo stesso Berlusconi per far credere che la cosa sia stata grave, eccetera, eccetera. Per cui qui il complotto, chiamiamolo in un altro modo, ma è la stessa cosa. Addirittura un blog molto interessante che di solito seguo, come quello di Alessandro Giglioli, Piovono Rane, Giglioli scrive: è ormai palese la calcolata esagerazione iniziale delle conseguenze dell'aggressione. Cioè, secondo lui è certo che le conseguenze dell'aggressione sono state esagerate dal Presidente del Consiglio o dai suoi uomini. I 3 mesi di prognosi branditi sui TG e l'autodefinizione di miracolato, con tutto il rispetto, somigliano molto al comportamento di un bambino che sfrega il termometro sul calorifero per far salire il mercurio da 37,5 a 39, così da marinare la scuola. Lo sfruttamento a fini propagandistici dell'aggressione era evidente fin dal momento in cui il premier uscito dall'auto sanguinante pur di farsi fotografare. E ora quegli scatti diventeranno immagini da campagna elettorale per le regionali. Cioè, lei è d'accordo con questo? Tra virgolette, l'ho letto anche questo articolo. In alcune cose mi sembra un po' fantasioso. No, su questo però, è d'accordo che c'è stato uno sfruttamento propagandistico? Lei è d'accordo, per esempio? Credo che su questo non c'entri niente Berlusconi. E che ci sia dietro per Berlusconi o per chiunque altro che si fosse trovato nelle sue condizioni, avrebbe fatto le stesse identiche cose. Cioè cosa? L'occasione. Avrebbe comunque sfruttato l'occasione. Ma in che cosa, scusi, io vorrei capire, in che cosa consiste adesso lo sfruttamento dell'occasione? Cosa è successo per farle dire Berlusconi sta sfruttando l'occasione o per farle pensare una cosa di questo tipo? Allora, lei è un professionista come lo sono io. No, ma mi spieghi qual è lo sfruttamento, cioè qual è la frase che dice Berlusconi sta sfruttando la situazione? Il partito dell'amore, non è il partito dell'amore. Per esempio, il fatto di essere uscito fuori dalla macchina per farsi vedere in quello stato. Scusi, ma quello lo dice lei che è per farsi vedere? Quello lo dice lei che è per farsi vedere? Non è che sta scritto. Attenzione, lei dovrebbe avere a che fare con dei professionisti per quanto riguarda la security. Allora, se un qualsiasi professionista, vero professionista, fa parte della security di Berlusconi, ma di chiunque altro, presidente, avrebbe riportato giù, avrebbe riportato dentro. Guardi che stiamo parlando del presidente del Consiglio. Cioè, sì, ma Marco, questo lo so perfettamente, avrebbe riportato dentro. Dopodiché i rapporti non gli concedeva neanche di muoversi da quella macchina. Però sostenere lo garantisco io. Questo l'ho capito, però sostenere che capisce? Ho capito, però sostenere che lui sia venuto fuori, lasci perdere i rapporti che ci sono tra Berlusconi e la security, magari è più forte Berlusconi della security, cosa diversa rispetto ad altri paesi, insomma, questo potrebbe essere anche un tema interessante. Però insomma, il fatto che sia venuto fuori per farsi fotografare, come scrive Giglioli, francamente questo mi sembra esagerato. La ringrazio, andiamo a Firenze, Riccardo. Sì, pronto? Sì, buonasera. Buonasera a lei. Riccardo, spenga però la radio, io non lo posso dire 100 volte, spenga la radio perché altrimenti si sente triplo, doppio, grazie. Ma premetto, io non sono un elettore di centro-sinistra né di destra, le dirò che sono di centro e non so più per Casini perché fra l'altro le ho una canna al vento. Ma lo sa che mi viene un dubbio anche a me che il Presidente, che io stimo per tanti versi, essendo un gran comunicatore, mi è venuto un dubbio, insomma, ecco, a parte le dichiarazioni tragicomiche di Fede che diceva che il nostro presidente ha rischiato la vita, è in pericolo di vita, quindi a volte perderebbe. Qual è il dubbio? Qual è il dubbio, Riccardo? Ma io mi è venuto un dubbio anche a me che in qualche modo da grande comunicatore questa cosa, non lo so, ecco, mi è rimasto questo dubbio. Ora, dato che è venuto fuori questa affermazione da parte di certe notizie stampa e così via. Non lo so, sono un po'. Cioè la guarigione lampo, la guarigione lampo. Beh, anche quella, Crociani, abbia pazienza. Insomma, io mi sono fatto male anch'io. Viaggiato l'altro giorno. Cioè, il viso lo trova troppo pulito? Trova troppo pulito il viso. Non mi è andato neanche da Padre Pio, lui, voglio dire. Quindi i miracoli non esistono, insomma, è venuto fuori con quella faccia sanguinata. Certamente io in parte sono d'accordo con il precedente, ma che il signore mi ha preceduto, che la security non gliel'avrebbe permesso di ritornare fuori. Vabbè, ma questa qua è una storia vecchia, lasciamo perdere. Insomma, lei è rimasto colpito, lei è rimasto colpito dal fatto di aver visto la faccia di Berlusconi senza alcun segno. Ma insomma, potrebbe essere andato a farsi quel ritocchino di cui si parlava nei primi giorni dopo l'attentato. Ma abbiamo il giornale radio 800 24 00 24, torniamo subito dopo. Siamo qui alle 19.16, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Alla Zanzara andiamo a sentire i titoli del TG3. Alta tensione a Rosarno, scontri e feriti, gli immigrati tornano a protestare tra la rabbia degli abitanti e poco fa gambizzati 2 migranti. Maroni, troppa tolleranza con i clandestini. Bersani è uno scaricabarile, c'è la Bossi Fini, Gelmini, tetto del 30% agli stranieri in classe. Roberto Saviano al TG3, gli immigrati di Rosarno hanno il coraggio di ribellarsi all'andrangheta, per questo non dobbiamo criminalizzarli. In Italia persi 400.000 posti di lavoro in un anno, deficit raddoppiato, in Europa disoccupazione al 10% come 11 anni fa. Sulla Torre degli Aragonesi a Porto Torres decine di lavoratori per difendere la Vinilis, un'azienda della filiera del cloro in crisi. Marini al TG3, Bonino candidata, ha le carte in regola, nessun problema tra i cattolici, cambio della guardia al vertice del PDL, Fini smentisce. Lo stupro di Guidonia, nessun attenuante per i quattro rumeni, sono stati condannati a 16 anni, accolte le richieste dell'accusa. 75 anni fa nasceva Elvis Presley, il re del rock and roll, ha milioni di fans e il suo nome a 33 anni dalla morte è ancora un'etichetta miliardaria. Chissà in quanti si arrabbieranno sentendo le parole di Ciriaco De Mita, che adesso è nell'UDC e che è stato però a lungo nel Partito Democratico, oltre che naturalmente essere stato Presidente del Consiglio, leader democristiano, alleato rivale di Bettino Craxi. Oggi in un'intervista al Corriere della Sera dice De Mita dell'ex nemico Craxi, giusto riabilitarlo, era parte di un sistema. La lettura giustizialista è sbagliata ed è sbagliato leggere l'esperienza del politico Craxi come quella di un criminale latitante. Da questo punto di vista, quello della lettura di Craxi come criminale latitante, non solo come criminale latitante, sono in maniera un po' inquietante vicino alle posizioni di De Mita. Abbiamo avuto momenti conflittuali, ma Bettino è una brava persona. Dopo il mio governo i rapporti sono stati splendidi. A proposito di Berlusconi e dei processi, la linea dell'UDC, interpretata in questo caso da De Mita, Berlusconi è legittimato dal voto popolare, condivido la posizione, sia pure confusa, di risolvere il problema consentendo al premier di governare e sospendere eventuali processi. Approvo l'ipotesi avanzata da Enrico Morando di ripristinare l'immunità. Sky TG24. Rosarno, la rivolta continua, a sparatoria in strada, gambizzati due immigrati. Troppa tolleranza con i clandestini, dice Maroni, e Bersani attacca il governo. Alunni stranieri, la Gelmini fissa il tetto, non più del 30% in classe. Disoccupazione senza freni, in un anno persi oltre 300.000 posti di lavoro. 16 anni al branco di Guidonia, condannati i quattro stupratori romeni. Ragazza aggredita a Milano, preso un senegalese, forse è il violentatore seriale. Fallito attentato in volo, prima udienza per il nigeriano che voleva la strage. Maltempo, sul Tevere resta l'allerta, attesa domenica la nuova ondata di piena. Calciomercato, Mancini al Marsiglia, Iaquinta dice no alle sirene del Chelsea. Avatar, da realtà virtuale a trionfo reale, è il secondo tra i film più visti di sempre. Allora, 800 24 0024, sentite questo servizio del TG5 di oggi, se non sbaglio, delle 13, che riprende un articolo uscito sulla stampa. Il titolo dell'articolo sulla stampa è questo: crollano le accuse a Del Turco, arrestato un anno e mezzo fa per avere preso tangenti dal re della sanità abruzzese. Il rapporto dell'ARMA, che è all'interno del fascicolo giudiziario che è stato reso noto alle parti, dimostrerebbe che la Giunta aveva tagliato drasticamente i finanziamenti alle cliniche di Angelini. Tutti hanno dimenticato questa storia, eppure è bene ricordarla, non perché ci siano delle verità accertate, cioè non è ancora accertato che Del Turco sia innocente, come il fatto che Del Turco è colpevole, e però... Certo, si tratta di cosa estremamente grave. Ed è ancora più grave, a mio modo di vedere, che si parli di tangente in un ambito quale quello della sanità. È particolarmente odioso. È il pomeriggio del 14 luglio 2008 quando il procuratore della Repubblica di Pescara, Nicola Trifuoggi, va giù pesante davanti ai giornalisti accorsi per la notizia che quel giorno attraversò l'Italia. Era finito in carcere Ottaviano Del Turco, il presidente PD dell'Abruzzo, ex sindacalista della CGIL, ex ministro ed ex presidente della Commissione Antimafia, e con lui altri 9 tra assessori, funzionari e politici. Il grande accusatore è Vincenzo Angelini, il re delle cliniche private abruzzesi. Entravo nella casa di Del Turco a Collelongo con borse piene di mazzette, raccontò ai PM. Ne uscivo con mele al posto dei soldi. Ebbene, in questo anno e mezzo di indagini, due volte prorogate, di conti italiani ed esteri passati al setaccio, non è stato trovato un solo euro sporco riconducibile a Del Turco. Anzi, le informative di Carabinieri, Guardia di Finanza e Banca d'Italia hanno accertato che la giunta Del Turco non solo non favorì la sanità privata, ma anzi, sospettando della gestione Angiolini, tagliò drasticamente i fondi alle sue strutture. Gli unici movimenti poco chiari. Allora, avete sentito bene? Poi bisognerà approfondire, naturalmente, un servizio televisivo è sempre un servizio televisivo, però vi faccio riascoltare altre parole che certamente poi sono state comunque smentite dai fatti, perché sono passati molti mesi e queste certezze che il procuratore capo di Pescara aveva a Trifoggi riguardo alla colpevolezza di Del Turco in realtà non si sono rivelate poi queste certezze inossidabili. Sentitelo, c'è una valanga di prove, diceva il 14 luglio del 2008. Qui non c'è nessun teorema, qui ci sono dei fatti dolorosissimi. Noi abbiamo ritenuto, e siamo stati confortati, ripeto, dal GIP in questo senso, abbiamo ritenuto di avere la prova del pagamento di una barca di soldi, di una marea di soldi. Complessivamente stiamo parlando di circa 30 miliardi di lire. Quelli che sono stati arrestati, dal nostro punto di vista, sono schiacciati da una valanga di prove. Da una valanga di prove. Una valanga di prove. In realtà poi questa valanga era una piccolissima slavina, forse nemmeno una slavina. Esigenze cautelari, cioè bisognava arrestare quelle persone in quel momento, proprio la vigilia di una campagna elettorale? Esigenze cautelari. Era proprio necessario? Era proprio necessario. A parte il fatto che nell'autovettura di uno degli arrestati di questa mattina abbiamo trovato una valigetta con 113.000 euro che non credo che potessero rappresentare il previsto costo del pedaggio autostradale del parcheggio. Ora mettere su una potente automobile, una Porsche Cayenne, una valigetta, una 24 ore con 113.000 euro, anche un bambino verrebbe in mente di pensare forse voleva scappare. Ma ora, la campagna elettorale non c'era, ho sbagliato a dire che c'era una campagna elettorale, ma il punto non è questo. Il punto è un altro. Le prove schiaccianti non si sono rivelate schiaccianti. Era il 14 luglio del 2008 e la procura si avvalsa per due volte della facoltà di chiedere una proroga delle indagini. Un anno e mezzo sono state disposte un centinaio di rogatori internazionali alla ricerca di conti esteri o di società offshore, ma non è stato trovato un soldo e il pilastro dell'accusa resta solamente la confessione o comunque la rivelazione, le rivelazioni di Angiolini. E poi in un rapporto dei Carabinieri si dimostrava che Del Turco non aveva favorito le cliniche private ma avviato una serie, un drastico taglio alle richieste illegittime di Angiolini stesso. Insomma, poi si vedrà nei processi quello che, chi ha ragione e chi ha torto, ma insomma quelle certezze che avete sentito di Trifoggi del procuratore capo di Pescara evidentemente non erano certezze. 800 24 00 24 a me fa impazzire Daniela Santanchè, mi fa impazzire nel senso che non capisco quale tipo di consenso possa avere, lo dico chiaramente. In un'intervista oggi al Corriere della Sera dice Daniela Santanchè, presto al governo come sottosegretario al welfare, perché dopo aver detto che Berlusconi è il peggio del peggio, adesso probabilmente sarà sottosegretario al welfare. Senta, io sono scaramantica, perciò direi che è meglio. Sembra fatta, su, dice, scrive Fabrizio Roncone. Guardi, io ci sono solo due certezze. La prima è che Silvio Berlusconi sta effettivamente prendendo una decisione in merito. La seconda è che sta decidendo perché ne ha, come dovrebbe essere noto, le prerogative essendo il Presidente del Consiglio. Ci sono delle perplessità forti all'interno del PDL. Dice ancora Roncone, nel PDL no, non mi risulta, saranno i Finiani forse ad essere un po' agitati. E poi racconta perché insultava nella campagna elettorale del 2008 Berlusconi. Intervenuta come al solito in una trasmissione del pomeriggio, immagino che sia pomeriggio 5 sul canale 5 o forse sul secondo canale, anzi no, su Rai 2 stavolta, dalla Setta, la Santanchè, sentite cosa dice a proposito di Balotelli. Devo essere libera, dice, di dare dello stronzo a Balotelli. Senza beccarmi della razzista. Rappresentanti del Partito Democratico tirano sempre fuori le attenuanti culturali. Ma non è allora vero. Se una la pelle allora nera Fini, scusa, non si può dire Fini, che è uno stronzo. Fini, se Balotelli per me non è certo uno di sinistra, lo posso dire? Fini di sinistra. Ma il punto, perché se no poi dopo voi mi difesa la Santanchè è razzista perché dice che Balotelli è uno stronzo. Anche se al colore della pelle nera voi potete dire che è uno stronzo. Allora andiamo adesso a andiamo a scegliere invece come la pensi. Noi potremmo fare di meglio, dare vita ad una forza partitica che rinnovi la politica grazie all'amore. Chi non la pensa così come noi non fa parte della Lega, dell'amore che come si... E certamente non fa parte della Lega dell'Amore il capo dei leghisti alla provincia di Trento, il quale ieri ai nostri microfoni ha detto chiaramente che lui, in quella che chiama casa sua, in realtà non è casa sua perché è la sede della Lega alla provincia di Trento, dunque appartiene alla provincia di Trento, a tutta la provincia di Trento, non ai leghisti della provincia di Trento, non vuole delle persone che fanno le pulizie. In realtà si tratta di una persona, di una signora, probabilmente italiana, secondo me, italianissima, ma comunque di origini marocchine, di religione islamica, forse, non lo so, non mi interessa, che fa le pulizie. Non ce la vuole perché teme che qualcuno prenda dei dati sensibili e poi magari faccia qualche attentato, solamente perché la Lega ha certe posizioni sull'Islam. Sentitelo. Abbiamo scoperto dopo qualche mese che abbiamo un gruppo qui con Sumare che chi fa le pulizie è gente islamica. L'altra mattina il mio collega del consigliere provinciale Cinettini ha trovato addirittura la signora che dormiva sul divano della Lega, e credo che sia un grosso pericolo il fatto che chi effettua pulizie all'interno del gruppo consigliere Lega Nord sia di fede islamica. E questa è la ragione che noi abbiamo con l'Islam, diciamo, una partita aperta, e la Lega fa politica sull'Islam in tutti i sensi, dalle moschee, crocifissi, quant'altro. E sapere che c'è personale che può accedere ai nostri dati, alle nostre carte, all'interno degli uffici, evidentemente è un grosso rischio. Chi non la pensa così come noi non fa parte della Lega, dell'amore che come simbolo ha il cuore della mamma. A proposito di ritorno in pubblico, abbiamo delle immagini che sono state pubblicate, delle foto, poche foto, due ne proponiamo, che sono state pubblicate dall'autorevole quotidiano della Francia, che si chiama Nice Matin, foto che mostrano per la prima volta ristabilita in piena forma il Presidente del Consiglio dopo l'agguato che poteva costargli la vita. Allora vediamo la prima. Il capo del governo posa volentieri con alcuni bambini che lì in una strada dell'antica cittadina di Saint-Paul-de-Vence lo hanno riconosciuto e hanno chiesto di potersi fotografare con lui e ottenere, come hanno ottenuto, l'autografo. Seconda foto. Il Presidente del Consiglio in compagnia della figlia Marina attraversa la piazza centrale di Saint-Paul-de-Vence. Borsa 800 24 00 24. A proposito della rivolta di Rosarno, che come avete sentito è il primo titolo di tutti i telegiornali di quello che sta succedendo con gli extracomunitari che vivono in condizioni difficili e che però hanno commesso atti di violenza, e atti di violenza sono stati commessi da locali, probabilmente mafiosi nei confronti, o comunque criminali nei confronti degli extracomunitari, una situazione anche difficile da comprendere per quello che riguarda le origini dello scontro. Abbiamo assistito oggi alla solita teoria di dichiarazioni inutili da parte dei politici che si rimproveravano gli uni agli altri, la responsabilità. Voi fate entrare i clandestini, l'opposizione invece dice no, siete voi che avete fatto la legge Bossi Fini. Insomma, le solite litanie di fronte a episodi che sono in realtà del tutto locali e da analizzare per quello che sono. E poi abbiamo sentito in televisione che cosa? Abbiamo sentito una competizione di altissimo livello su questa vicenda tra Alba Parietti e Daniela Santanchè. Questo tipo di forza lavoro che costa praticamente zero in schiavitù, come dici giustamente tu, ma non solamente per quanto riguarda lavoro, prostituzione, droga, contraffazione, eccetera, eccetera, è semplice da eliminare con la legalità. Allora cominciamo a eliminare l'illegalità che c'è all'interno della nostra nazione con le mafie che gestiscono questo tipo di... Non facciamo di tutta un'erba un fascio, dicendo che qua il problema si aggrava perché si intreccia la clandestinità con la criminalità organizzata. Va bene, andiamo agli ascoltatori. Dove siamo? Tullio da Rieti. Buonasera Tullio. Buonasera Luciani e grazie per l'opportunità che mi dà. Grazie a lei, dica. Io volevo spezzare una lancia a favore di Sonia Alfano. Ricordo così incidentalmente che tra l'altro è la figlia di Beppe Alfano, di cui si ricorda proprio oggi l'anniversario dell'uccisione per mano della mafia. E questo allora? Lo dico così. Prego? No, dico, dunque, la figlia di Alfano, certamente, lo sappiamo. Sì, no, questo lo volevo precisare, nel senso che Beppe Alfano è stato uno che in nome della verità, insomma, ha dato la vita. Io questo mi domando. Cioè, beh, questo non c'entra qualcuno... niente con non c'entra niente con l'argomento di cui stiamo parlando. No, no, aspetti, se mi fa concludere. Sì, prego. Io dico, c'è qualcuno che forse ha paura della verità anche in relazione a questo fatto che è accaduto? Perché non mi sembra che Sonia Alfano abbia fatto delle semplici illazioni. Ha detto semplicemente, all'estero, e chi frequenta la rete, come ha detto anche quell'altra persona che è intervenuta prima di me, si è parlato molto, ci sono stati molti servizi a proposito di queste situazioni qua. Non è che uno dice è vero o non è vero, si dice semplicemente teniamolo presente, insomma, nel senso che probabilmente, cioè, credo che una maggiore attenzione. Ma cosa dovremmo tenere presente? Scusi, Tullio, non capisco che cos'è che dovremmo tenere presente. L'ipotesi che tutto sia stato esagerato da Berlusconi? Cioè che la ferita era molto meno grave di quella che poi è apparsa, questo, o comunque di quello che hanno fatto credere? Non ho capito. Questo non mi sembra, tra l'altro. Sì, esatto, però. Non mi sembra, tra l'altro, un'illazione. Questo mi sembra un fatto. Ma quale fatto? Ma di che sta parlando? Secondo lei c'è una sorta di congiura da parte di tutti i medici del San Raffaele? No, chiunque l'ha visto? Tutti quanti ha detto questo? Non lo so. No, io non ho detto questo. Io ho detto semplicemente che all'inizio della trasmissione lei ha utilizzato parole che, a mio giudizio, poi io non so nessuno. No, ma non è questione di essere nessuno. Mi sono sembrati nei confronti dell'Alfano. Ma io non ho detto niente nei confronti dell'Alfano. Io ho semplicemente detto che lei si è rivolta al presidente dell'Alfano, europarlamentare, sì. Si è rivolta al presidente, sì, della Repubblica, dicendo presidente, con un tono grave, come se fosse successa una tragedia, no, inenarrabile. Questa è una mia interpretazione, certo, è una mia, sì, interpretazione. Ha chiesto semplicemente di guardare quel filmato, perché all'estero ci sono state delle persone che vanno dicendo questa cosa strana. Ho capito, cioè, ma quale? Che cosa stanno dicendo? Non c'è nessuno all'estero. Quel filmato è una trasmissione, è uno stralcio, un pezzo di una trasmissione satirica. Esatto. Di una trasmissione quel satirica. Lì, ho capito, dice... ma è una trasmissione satirica. È come, sì, andare in onda. È come un pezzo del David Letterman Show, di altri programmi satirici, bene, in cui si scherza su questo. A prescindere, però, oltre a quel filmato, ce ne sono, sì, molti altri, e anche di. Diciamo di televisioni, mi sembra olandesi, insomma, io ne ho visti diversi in questi giorni. Poi, a prescindere dal fatto, io francamente non credo che. Ok, ma c'è bisogno di rivolgersi al Presidente della Repubblica per una cosa di questo tipo? Mi scusi, abbia pazienza, cioè non è che tutto può arrivare davanti. E poi che c'entra il Presidente della Repubblica, che fa l'investigatore il Presidente della Repubblica? Ma guardi, il Presidente della Repubblica ha un ruolo istituzionale. Lei semplicemente, anziché dire Cruciani vada a investigare questa cosa, ha investito il Presidente della Repubblica per ruolo istituzionale su una situazione che effettivamente magari può riguardare tutta l'Italia, perché se siamo stati presi in giro su questa cosa, sicuramente, insomma, non è che sì, sia, però va benissimo, Tullio, se ne parliamo io e lei, va benissimo, cioè se sulla rete circolano tante cose, circola anche questa, naturalmente va bene, fa parte del dibattito pubblico in cui ci sono anche posizioni un po' folli, anche corrosive, insomma si può dire e scrivere praticamente tutto, che ne dicano quelli che pensano che c'è la libertà di stampa limitata oggi nel nostro paese, non solo nel nostro paese, ma se lo dice lei non fa niente, se lo dico io neppure, se lo dice un europarlamentare che rivolgendosi al Presidente della Repubblica, secondo me, insomma, cambia qualcosa. Cioè, cambia qualcosa. Uno ha anche una responsabilità, se ha un ruolo istituzionale. La responsabilità è quella di, esatto, non dire panzane, di non far passare un filmato della televisione tedesca, che è una trasmissione satirica, come chissà quale rivelazione sull'incidente a Berlusconi. Sì, al di là della televisione satirica tedesca, che voglio dire, poi insomma è una cosa che, per come la vedo io, è secondaria. La cosa importante è, c'è una situazione che, su cui comunque, ecco, l'ha detto anche lei all'inizio, no? C'è stata una prodigiosa ripresa. Io non so se lei conosce qualcuno che ci ha avuto una frattura al naso, io li conosco, a me grazie a Dio non è mai capitato, però insomma, la ripresa del miracoloso, soprattutto una persona. Guardi Tullio, ci sono fratture e fratture al naso, e in ogni caso lei, ma neanch'io, non conosciamo nessuno dei due. Le cartelle mediche di Berlusconi. Sono d'accordo. Guardi, tutto si può pensare, secondo me, tutto si può pensare, tranne quello che ripeto, ho letto nel blog, molto bello, una persona che stimo, eccetera, dell'amico Alessandro Giglioli, il quale sostiene, e lo ripeto per l'ennesima volta, che cosa? Che è ormai palese, sicura, certa, la calcolata esagerazione iniziale delle conseguenze dell'aggressione, i 3 mesi di prognosi. E poi dice ancora: lo sfruttamento a fini propagandistici dell'aggressione era evidente fin dal momento in cui il premier uscì all'auto sanguinante pur di farsi fotografare. Ora quegli scatti diventeranno immagini da campagna elettorale per le regionali. Dunque, esagerazione iniziale delle conseguenze dell'aggressione. Questa è la certezza di Giglioli. Io, francamente, questa certezza non ce l'ho. Lei ce l'ha? Pronto, sono in linea? Sì, lei ce l'ha questa certezza, Tullio, mi segue? Ah, ecco, no, io questo dicevo, no, assolutamente no, anzi, le dirò di più, che questo signor Giglioli, che io non conosco, esprima una sua opinione nel suo blog, non significa che automaticamente sia chissà quale oro colato, è semplicemente... No, no, questo va da sé, quello è chiaro. Appunto, che certo, quello... per cui, insomma, è inutile stare continuamente a ripetere questo Giglioli ha detto questo, a me interessa fino a un certo punto. Va bene, a lei non le interessa, è, una, è, una, è un elemento del dibattito, allora, esatto, potremmo, dire, potremmo dirlo di tutto, a me non interessa. Non è oro colato, né quello che dice Giglioli, né quello che dicono tanti altri. Vabbè, né quello che dico io, né quello che dice lei, vabbè, allora di che parliamo? Insomma, però, ringrazio Tullio, ci sono altri ascolti. Che vuole dirmi ancora? No, aspetti. Questo significa che, se mi permette, è importante avere, dare il beneficio dell'inventario e comunque mettere una goccia in più che aiuti e che ci apra la mente nei confronti di quella che potrebbe essere la verità di un fatto. Guardi, qui non c'è niente da capire. Tullio, io sono qui, non c'è niente da capire. Uno ha tirato una statuetta in faccia a Berlusconi, ha avuto delle conseguenze, dicevano che sarebbe guarito in 3 mesi, esatto, probabilmente è guarito in meno tempo, meno male, punto, basta. Cioè, non c'è nessuna strumentalizzazione, non c'è nessuno complotto, non c'è nessuna cospirazione. Se qualcuno ha detto delle stupidaggini dopo l'attentato, va benissimo, ha detto delle stupidaggini, l'abbiamo ripetuto più volte, ma dov'è la strumentalizzazione? Io vorrei capire dov'è la strumentalizzazione. Se qualcuno ha cercato di strumentalizzare qualche cosa a livello politico, sicuramente c'è stato, l'abbiamo fatto notare. Però, insomma, tutta la cosa, la teoria cospirazionista su Berlusconi, che praticamente ha esagerato le conseguenze per ottenere e per far aumentare il consenso, mi sembra francamente una cosa ridicola. La ringrazio. Roberto da Roma, buonasera. Pronto? Buonasera, dica. Ecco, anzitutto grazie per l'opportunità che mi sta dando. Seguo molto attentamente quasi ogni sera, insomma, quando esco prima dall'ufficio riesco ad ascoltarla. Senta, no, io volevo fare un piccolo intervento appunto in merito alla vicenda Berlusconi, alla vicenda dell'incidente, sperando nelle prossime telefonate, ma soprattutto anche nei prossimi giorni, ci sia un po' un'interruzione, perché ci sono, e lei sa benissimo, tantissimi altri problemi e vicende che cadono sia nel mondo della politica che soprattutto nel mondo della cronaca, che hanno una dignità maggiore. Vabbè, lei ci parli di quello che vuole, Roberto, adesso non faccia una classifica tra le cose più importanti e meno importanti, quello che le viene, dica. Io sono più o meno certo, ma questo l'ha detto anche lei, l'ha detto anche il giornalista, che ha quel giornalista, insomma, quella persona che ha il blog, diciamo, c'è una certezza che all'inizio, diciamo immediatamente dopo l'incidente, c'è stata una esagerazione da parte di tutti, diciamo, le persone di centrodestra, insomma, esponenti politici, giornalisti e via dicendo. E questa è una certezza. Anche ma perché, esagerazione in che senso? Chi è che, non è che si può dire una cosa generalizzando. No, una certezza è perché, beh, si parlava di 3 mesi di prognosi, non sono passati ancora 3 mesi, Berlusconi già ha ripreso, insomma, in un modo abbastanza, come dire, impegnato le sue attività. Sì, ma magari 3 mesi di prognosi erano, si riferivano al decorso finale, non all'apparenza estetica, insomma. Cruciani, lei sa benissimo, tutti noi abbiamo dei piccoli problemi. Roberto, io voglio capire una cosa, Roberto, dietro questo ragionamento che lei fa, cosa c'è? Cosa ci vuole dire? Che qualcuno qualcuno cerca di utilizzare lo stesso Berlusconi? Non lo so, mi dica, perché allora, non lo capisco. Penso sicuramente che non ci sia né complotto né una strumentazione politica che sia degna di chiamarsi tale, perché sarebbe un'esagerazione. E allora? Certo. Ecco, c'è una, perché io sono un moderato, anche il mio pensiero anche in questo senso è moderato, nel senso che Berlusconi e la sua classe dirigente e anche giornalisti, faccio anche il nome Fede, sono delle, evidentemente ci stanno un pochettino sguazzando, come si dice dalle parti nostre, sul fatto che sia stato una, evidentemente all'azione politica di Berlusconi il fatto di tirare una diciamo statuetta in viso. Vabbè, ecco, Roberto, però andiamo al sodo, però non mi faccio un discorso lungo 10 minuti. Cosa vuole dire? Voglio dire che non c'è un complotto, sicuramente una minima strumentalizzazione. Da parte di chi? Da parte di chi? Il centrodestra, evidentemente. Da parte del centrodestra. Per far che cosa? Per, evidentemente, non dico aumentare il consenso, ma perlomeno far risultare Berlusconi come se fosse una vittima e, diciamo, il gesto che poteva essere, diciamo... Sì, vabbè, ma questo qua fa parte delle reazioni che ci sono state nell'immediatezza del fatto. Adesso, dov'è la strumentalizzazione adesso? Mi scusi. Adesso, in questi giorni, dov'è? Sarà il fatto che queste cose poi si portano avanti. Ancora ne stiamo parlando, ancora c'è gente che penso che ci stia navigando in queste acque, no? Va bene, d'accordo Roberto, la ringrazio. Eccoci qui, 19.46, 800 24 00 24. Intanto c'è un'ultima ora lanciata da Sky. Rosarno, gravi, 2 dei 4 immigrati feriti. Andiamo a Milano, provincia di Milano. Giuseppe, buonasera. Interventi, vi invito, un po' più sintetici, così, tanto per dare l'idea di una trasmissione con più ritmo, altrimenti facciamo notte. Giuseppe, buonasera. Sì, spero, buonasera. Dunque, intanto volevo esprimere la mia solidarietà a quei lavoratori extracomunitari che sono stati oggetto di questi attacchi terroristici. Va bene. Secondo me. Solidarietà inutile, non è che qui ogni sera ci mettiamo a dire solidarietà a quello, solidarietà a quell'altro, perché altrimenti non la finiamo più. Comunque, prego. E per quale motivo non dobbiamo dirlo? Sono lo dica. Ma sì, va benissimo. Certo, sono situazioni disagiate anche per un paese. Va benissimo, io lo dico non perché sono lavoratori extracomunitari, perché se iniziamo un intervento a dire solidarietà a quello, sono solidario nei confronti di quell'altro, diventa una sorta di nenia. Noiosissima. Comunque, mi dispiace, io non sento sempre la sua trasmissione, quindi non so quanti solidarietà ricevono adesso, però se una cosa del genere. Lei vuole esprimere solidarietà nei confronti degli immigrati feriti. Va bene. Vorrei dire che quando queste cose succedono, purtroppo queste persone non vengono mai inquadrate per quello che sono, non vengono mai, almeno tendenzialmente, e questa è l'atmosfera che si respira in Italia attualmente. Non è mai guardato per quello che sono, cioè delle persone che cercano di migliorare la propria esistenza, la propria vita, di guadagnare, di venire in un paese che si presume ricco e civile per sistemare delle posizioni. Mm. E come vengono visti invece? Come vengono visti? Diventano invece dei malfattori per il fatto che non hanno i documenti, mica peraltro. Diventano dei? Malfattori, dei malfattori, sì. Perché è reato di clandestinità, questo è, no? Lo stesso governo che da una parte depenalizza il falso in bilancio, dall'altra parte invece criminalizza chi. Però mi scusi, non mi confonda, guardi, non veramente voglio. Cosa c'entra il falso in bilancio con il reato di clandestinità? Abbia pazienza. I reati che hanno commesso questi. Ma non lo so, ma qui non è un problema di immigrazione. Insomma, lei di cosa vuole parlare, Giuseppe? Io ancora non l'ho capito, perché lei dice sono solidario nei confronti dei immigrati feriti. E vabbè, tutti quanti siamo d'accordo che la violenza non ci vorrebbe. D'accordo. Dunque, non l'ho capita la seconda cosa. È un paese che vuole combattere la criminalità, la clandestinità, no? Sì. Allora, questi qui, tutti i giorni, tutti sanno da chi vengono presi, da chi vengono reclutati, dove vanno a lavorare, sono in una area geografica dell'Italia di grossa disoccupazione, no? Ciò nonostante, questi trovano lavoro laddove gli italiani non lavorano, chissà come mai, no? Sì. Nessuno, visto che qui si combatte la clandestinità, nessuno delle forze dell'ordine o degli organi preposti che vada in questi luoghi a verificare chi sta lavorando lì, a denunciare chi ha dato loro lavoro, caporali, i famosi proprietari. No, questo è giusto, ci dovrebbero essere più controlli nei confronti di chi li assume in nero e anche di chi naturalmente e anche nei confronti di chi è clandestino. Sia chiaro. 800 24 00 24. Buonasera, donna Assunta Almirante, come sta? Benissimo. Senta, io le faccio solo ottima salute. Meno male. Siamo molto contenti. Le saluto l'amico Luca Telese innanzitutto. Ah, ecco, ma la saluti tanto. Senta, donna Assunta. Non lo sento da parecchio a Luca. Evidentemente. Lei che è andata in Australia. No, che Australia, sta qui, come sa, alla redazione del Fatto. Ah, ecco. Del Fatto Quotidiano, è passato dal giornale al Fatto. A Cipecchia, come mai? Che ne so, a un certo punto si ha voluto cambiare. Si sarà stancato di... vuole stare al fatto, fatto vero. si sarà stancato di lavorare con Feltri. A proposito di Feltri, si era stancato, non voleva continuare, voleva ritornare a lavorare con Feltri. A proposito di Feltri, ma lei tra Feltri e Fini con chi sta? Ma guardi, io conosco Feltri dal punto di vista professionale, quindi che vuol dire con chi sto? Beh, sa che c'è questo conflitto, no? C'è questo conflitto. Io compro tutti i giornali, sì, mi leggo gli articoli e di conseguenza valuto se l'articolista ha detto la verità o meno. Senta, non so, ma né con uno né con l'altro sto a vedere qual è la realtà dei fatti. Va bene, d'accordo, ma Feltri, lo sa, da tempo ha ingaggiato una battaglia, chiamiamola così, con ma Fini. Certo, dicendo che Fini ormai è diventato una broncopolmonite adesso, è una continuazione. Quindi... no, lui sostiene. Non pensi che dovrebbe andarsi un po' a curare, no? Lui sostiene Feltri che Fini ormai non è più nella linea del PDL, insomma, fa un gioco tutto suo contro Berlusconi. Secondo lei è così? Io mi meraviglio solo di una cosa: come mai Fini si sia lasciato trasportare e abbandonare la sua casa, sì, per una casa onorata e carica di valori, e sia finito senza una ragione valida a diventare il socio di un nuovo partito quando uno c'ha il suo ben noto e ben conosciuto, ecco. Cioè, è stata per me una rivelazione. Io ero dell'avviso che si può essere degli alleati, sì, ma vendere il proprio patrimonio per entrare in un patrimonio che non conosce, è normale che deve pensare che poteva avere sì e no delle difficoltà, e che quindi ha fatto, a mio avviso, malissimo a lasciare quello che era certo per l'incerto. E dunque lei dice non doveva mollare non Alleanza doveva, Nazionale? Non doveva assolutamente lasciare la propria casa, perché lui l'aveva ereditata, sì, non è che l'aveva costruita. L'aveva ereditata, quindi era un'eredità valida, un'eredità stimata dal popolo italiano, un'eredità che a lui aveva dato un certo nome, perché se era diventato qualcuno, era diventato proprio in funzione dal proprietario che gli aveva dato quell'eredità. Che poi era suo marito, insomma. Che era Giorgio Almirante, quindi di conseguenza... Quando questi che erano i primi, cioè Almirante, che aveva sofferto altro quello che soffre Berlusconi con la magistratura, persecuzione che non finivano mai, ed era riuscito ad avere praticamente la facilità con cui la gente lo stimava, l'amava, riempiva le piazze a migliaia di persone, non ho capito per quale ragione non è stato capace di accettare di diventare alleato di Berlusconi, ma non di svendere il suo partito e di finire nelle braccia di un altro che naturalmente vuole comandare adesso. Perché, ma vuole comandare, ma bisogna, non è che può spostare il proprietario della casa ed entrarci lui. E lui che fa? Entra nelle case di tutte, poi li molla e se ne va? Non è possibile, no? Lui aveva una casa da comandare. Sì. Chi glielo dice? Possibile che lui non pensava che il proprietario di questa casa non cedeva con tanta facilità la sua? Certo, avrebbe dovuto è pensarci un assurdo, prima. No? Senta, è una prepotenza mentale sbagliata. Senta, donna Assunta, ma lei si dà una spiegazione del fatto che molte persone di sinistra stimano adesso e riscoprono Gianfranco Fini, dicono questo grande lì. Non credo assolutamente che quelli di sinistra sono tanto stupidi, non li credo. È una ragione naturalmente questa per illuderlo, perché entra in un'altra casa dove è assurdo che possa comandare in un'altra casa, ecco. No, ho capito, però è vero che elettori politici, anche anche gli elettori, ma non che sono pronti a votarlo, però uomini anche di spettacolo, della sinistra, cantanti, eccetera, dicono questo Fini. Gli uomini di gli uomini, i cantanti, gli attori, poi non tutti gli attori, cerchiamo di capire. Vabbè, dicono... Gli attori di grido assolutamente non no, sono... No, però dicono, donna Assunta, dicono, queste persone qua dicono, beh, questo Fini è diventato uno statista adesso, finalmente. Ma come fanno a provarlo? No, per... un'immaginazione loro, come fanno? Non lo so. Lo conoscono? Perché dicono che ha delle posizioni. Non ci siano state delle prove talmente alte da stabilire o delle leggi così importanti da poter dire sono state fatte da Tizio, da Caio e che quindi lo portano a determinati livelli. Basta pensare a quelli degli extracomunitari Senta, che una ma... volta dice non devono entrare, devono stare a casa loro e poi me li riprendo e diventano i padroni di casa. Basta guardare quello che sta succedendo a Rosarno. Senta, ma per averne le prove, però, no? Però Fini ha delle posizioni che la sinistra apprezza. Come mai? Come è potuto succedere una cosa del genere? Ma non lo so, si vede che si è convertito. si può uno convertire, io posso essere atea e dopo abbraccio la religione cristiana. E succede. Succede, perché no? Lungo la vita uno si deve aspettare di tutto, Senta, lei... posso pure, io sono una cattolica praticante, posso diventare atea. Senta una cosa, ma vorrei capire, in questa contesa lei va ancora a votare? Sì, naturalmente. Io se non cambiano la legge non solo non voterò, ma non farò votare tutti quelli che mi seguono. Lei vuole le preferenze, no? Io voglio una rosa di nome come la Costituzione recitava. Cioè io voglio una rosa di nomi dove praticamente scopro che l'onorevole Berlusconi, l'onorevole Fini, io, Tizio, Caio, sono persone che io conosco, che stimo e che gli do i voti. La dittatura, ho l'impressione, che debba finire. La dittatura? E dov'è la dittatura? Perché questa è una dittatura, non la sentite voi, ma è una dittatura. No, non mi parli di dittatura, proprio lei, donna Assunta. Io gli parlo di dittatura, perché non è possibile che io debba andare in una cabina e debbo praticamente votare un simbolo e non un nome che io conosco. E che nome poi me li mette lei? Ma io non li conosco. Vabbè, insomma, le liste bloccate. Esprimo quello che penso. Cioè, però, io votare un individuo che conosco. Senta, ma però... non che mi viene nominato. Questi signori che sono in Parlamento sono abusivamente seduti in Parlamento. Perché sono stati nominati dagli amici degli amici. Senta, però mi sembra una donna Assunta Almirante alla Beppe Grillo, all'Antonio Di Pietro. No, non solo, ma manco mi sfiora Beppe Grillo, guarda. Non la penso nemmeno, ma è una realtà. Io voglio votare un uomo che conosco. Vabbè, insomma, ma non voglio votare un simbolo, perché per me il simbolo è solo la bandiera. Senta, un'ultima cosa, se lei magari dovesse votare, e non lo so, alle elezioni regionali dove ci sono comunque le preferenze. Le elezioni regionali sono nominative, io posso certo. Forse ci saranno due donne, la Polverini, la Bonino e la Polverini. Chi le piace di più? Io devo dirle che la Polverini la conosco molto bene. Ed è una donna, diciamo, che è capace di poter dirigere una regione. La Bonino pure la conosce. Primo la Bonino perché ha dato prove durante questo suo periodo di parlamentare oppure di dirigente commissario europeo, europeista. Certo. Ha dato prove. Anzi, io ho sempre detto che è una donna valida se non fosse alle dipendenze di Pannella. Guardi che Pannella con suo marito aveva una grande... No, Pannella l'ha insultato da quando è nato fino a quando è morto. No, ci sono stati anche momenti. Ma lei non ha sentito mai i discorsi? Sì. Certe sere proprio, per miracolo, non rompevo la televisione. Senta, ma però il voto è uno solo. Non me le dovete raccontare le balle. No, e chi gliela racconta le balle? Però voglio dire, basta pensare a quello che ha potuto dire Alfirino, guarda, che addirittura i Mattei hanno buttato le scarpe addosso e lui è scappato via. Senta, però il voto è uno, dunque mi dica, tra la Polverina e la Bonino, alla fine chi voterà? No, io in questo momento a lei non gli posso dire a chi voglio votare. Io gli sto dicendo che la Polverina è bravissima, la conosco, la stimo, la Bonino altrettanto, quindi al momento opportuno deciderò quale delle due votare. Va bene, grazie, buona serata. Buona serata a lei. I telegiornali 800 24 00 24, che piglio a quell'età. Siamo qui, i titoli dei telegiornali, iniziamo dal TG5. Dopo una giornata di tensione a Rosarno riesplode la violenza, scontri nelle strade, feriti 4 immigrati, 2 sono gravi. Maroni, troppi clandestini, polemica all'opposizione, Napolitano, fermare senza indugio ogni violenza. Tacchi e capelli lunghi, forse una donna tra i 2 attentatori che hanno fatto esplodere la bomba a Reggio Calabria, ma non si esclude un travestimento. Dai Cesaroni alla divisa, Claudio Amendola torna stasera su Canale 5 con la nuova fiction Tutti per Bruno, una serie poliziesca tutta da ridere. Sempre Rosarno in testa ai titoli dei telegiornali, sentiamo anche TG1. Rosarno, scontri fra italiani e immigrati, feriti 4 extracomunitari, Napolitano, fermare ogni violenza, in arrivo rinforzi di polizia. Maroni, clandestini, troppa tolleranza, Bersani fa lo scaricabarile, scuola, Gelmini, tetto del 30% per gli stranieri in classe. Lo stupro di Guidonia, 4 rumeni condannati a 16 anni, violentarono una ragazza e picchiarono il fidanzato. Il mea culpa di Obama dopo il fallito attentato di Natale, davanti ai giudici il terrorista del volo Amsterdam-Detroit. Vite in polvere, stasera TV7, inchiesta sulla cocaina che invade il mercato e stravolge la vita di insospettabili giovani. Nella panic room, come alla Casa Bianca, così funzionano le stanze blindate costruite per ville e appartamenti in Italia. Il 2010 è l'anno della tigre e comincia bene. Nella giungla di Sumatra nascono 2 cuccioli di una specie a rischio di estinzione. Va bene, Carlo ci chiama da Torino. Buonasera. Luciani, volevo intervenire su una riflessione che, un po' partendo dallo spunto della Parietti prima, sì, ho fatto sulla sulle capacità comunicative, sulla capacità di far passare il proprio messaggio, in questo caso di Bersani, ma in generale storicamente del centro-sinistra. Beh, non si può dire come la Parietti, però, che siccome Bersani non è nelle barzellette, e non lo troviamo nelle barzellette o negli sms con le barzellette che ci siamo mandati a Natale. Quella è una buttata. Io ieri ho sentito, credo da voi o dalla Radio Radicale, un pezzo della conferenza stampa in cui lui ha usato un'immagine, devo dire, abbastanza d'effetto. Ha detto sostanzialmente: se negli altri paesi, negli Stati Uniti, si inizia l'anno discutendo in Parlamento la riforma sanitaria, in Germania, eccetera, eccetera, in Francia, invece da noi, e quindi io propongo 1, 2, 3, parliamo di questi temi. È un messaggio che sostanzialmente, anche se tutto sommato sentendolo, mi è sembrato ben fatto dal punto di vista comunicativo, però non è passato così, e non credo sia colpa dei media, è colpa storicamente del centrinista, di Bersani in questo caso, del non essere capace di sintetizzare un messaggio che poi passa, di non essere, avere abbastanza appeal, perché l'avesse fatto Berlusconi un'immagine così, perché lui è bravo, perché tutti lo sanno, l'avrebbero usata al volo. Un attimo solo, Carlo, da Sky TG24, gli immigrati di Rosarno in corteo. Italia razzismo, nulla. L'africano è ferito, ma come? Italia non vuole africano. Ecco, l'avete sentito, 2 fronti contrapposti. Da un lato i cittadini di Rosarno che mostrano tutta la loro intolleranza, la loro esasperazione, dall'altra gli extracomunitari che a questo punto vorrebbero andar via, ma non è possibile farli andar via, non si saprebbe intanto dove poterli portare. Questo pomeriggio al comune di Rosarno si è tenuto un vertice con il prefetto di Reggio Calabria, non sono ancora stati adottati dei provvedimenti. Vabbè, il insomma, è una situazione molto confusa in cui le responsabilità sono da entrambe le parti, in cui c'è sicuramente una parte della cittadinanza di Rosarno che usa dei metodi francamente intollerabili, le proteste sotto il municipio, colpi d'arma da fuoco nei confronti degli immigrati, per carità. Torniamo con Carlo da Torino. Dica. Anche se mi vergogno della leggerezza della mia questione rispetto a quello che sta succedendo. No, dica, non c'è nessuna leggerezza. Quello che volevo dire, se pensiamo, non so, Steve Jobs, che è un mago della comunicazione, il CEO di Apple, che si dice spesso che lui crea gli articoli dei giornali del giorno dopo, cioè così bravo a sintetizzare in una frase, i giornalisti non fanno neanche fatica, prendono la sua frase e la usano. Mi sto chiedendo dov'è il problema, perché allo stesso modo non riesce a settare l'agenda. Normalmente Berlusconi è bravissimo a settare l'agenda, e questi in anni e anni non sono riusciti a imparare modo di entrare sui media, anche sui propri media. Se uno legge Repubblica, c'è scritto sostanzialmente qualcosina, ma non passa il messaggio d'effetto anche le poche volte che ce l'hanno. Io sono... Dunque, il problema non so se metterai centro-sinistra, sono diventato radicale ultimamente. Ma comunque, il problema, secondo lei, del centro-sinistra, comunque del Partito Democratico, è un problema di comunicazione. Anche. Sì, quando sì, si ha certo. qualcosa da dire, non passa con l'effetto con cui sarebbe... Va bene. Lui. Grazie. Andrea da Milano, buonasera. Pronto, buonasera. Dica. Sì, sì, intervento in merito al discorso di capogruppo Savoy. Sì, ma la sentiamo malissimo. Maurizio da Roma, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Era circa il discorso della lesione riportata al volto a Berlusconi. Sì. Sentivo appunto queste ipotesi fantasiose. Quando invece da chirurgo devo dire, sulla base di quello che ho visto, solamente di quello che ho visto e quel poco che ho letto, che si può ipotizzare facilmente una ferita lacerocontusa del labbro superiore, una frattura avulsione di 2 o 3 denti, una possibile frattura del setto nasale, una ferita lacerocontusa dell'arcata sopraccigliare, e questo determina invariabilmente una maschera di sangue, la prognosi che ha avuto e il fatto che oggi non si veda nulla. Cioè non vedo il complotto. A parte che c'è il cerone sopra, dunque... Sì, appunto, ma poi fra l'altro conosco bene il suo chirurgo plastico, che è molto bravo. Quindi comunque, a parte ciò, anche il fatto che Fede abbia detto che ha rischiato la vita... Scusi, certo chi sarebbe il chirurgo plastico? No, il nome non glielo faccio io, se non vuole pubblicizzarsi lui, va bene così, è molto bravo comunque. Detto ma dov'è, ciò, in Svizzera o in Italia? Il fatto che abbia rischiato la vita è sicuramente vero, perché una cosa del genere è lanciata contro... No, certo, su questo non c'è dubbio. Può fare una lesione temporale, una lesione del bulbo oculare, che cos'è questo? Un trauma cranico. Ma stiamo scherzando. Senta, ma dov'è? Svizzera o in Italia il chirurgo plastico di Berlusconi? A Milano. Sentire invece che qualcuno dice ma è stato da Padre Pio, io mi sono fatto male, ancora si vedono i segni. Ragazzi, qui si fa molta controinformazione, poca informazione. No, ma lei ha ragione, Maurizio, sono d'accordo con lei. Non ci sono gli elementi, secondo me, per minimizzare quello che è successo prima, né per dire adesso è stata tutta un'esagerazione, hanno detto 3 mesi. Ma è assolutamente una prognosi da 3 mesi, un uomo di 70 anni che riceve una ferita del genere, quanto gli vogliamo dare? 10 giorni di prognosi? Poi la prognosi significa non... che non ha, significa una prognosi che non ha più nulla di attinente a quel problema. Dopo 3 mesi, naturalmente. Dunque, dopo tre mesi si può dire. Una frattura guarisce in 3 mesi. Certo. Questo non significa che vederlo così vuol dire che non ha nulla, no? Non significa nulla, anzi è preoccupante. È stato importante il fatto che ha ritardato quello che era stato deciso sulla dimissione, sì. Perché la notte hanno dovuto evidentemente fare della morfina perché aveva dolori cani, ma è ovvio. Bene, grazie Maurizio di questo intervento. Antonio, provincia di Bari, buonasera. Buonasera signor Cruciani, grazie per avermi dato la possibilità di intervenire. Niente, io volevo soltanto puntualizzare alcune cose in merito appunto all'aggressione al volto di Berlusconi. In pratica, lei come sa benissimo, ovviamente Facebook padroneggia in questo periodo, visto insomma la sua importanza anche per notizie precedenti. Io volevo solo collegarmi ad altri ascoltatori che sono intervenuti in merito alla questione dell'aggressione, che ovviamente si valuta come una questione di complotto. Posso dirle che girando appunto su Facebook ho incontrato un gruppo dove effettivamente c'era una specie di investigazione proprio dettagliata di tutte le fotografie, di tutti gli interventi. Ma questo già nei giorni successivi all'aggressione a Berlusconi. Però è stata fatta appunto sono stati fatti riferimenti, cioè non è solo un video in pratica che è stato trasmesso in Germania, che ovviamente ha alzato sulla notizia, perché comunque si aspettava da un momento all'altro che questa notizia almeno venisse almeno discussa, insomma, che sia complotto. Non ho capito, Antonio, che lei ha partecipato ad alcune discussioni, allora? E niente, in pratica volevo solo farle notare che appunto non è di per sé una teoria sollevata da qualcuno che si è inventato un video. Cioè ci sono state delle persone che proprio hanno accumulato dei dettagli messi insieme. Ma sì, valutato, lo so benissimo, cioè, dunque è la sua... Una perizia a tutti gli effetti, dove è impossibile quasi sbagliare, è ovvio. E dunque la sua convinzione qual è? La mia convinzione è che anche se uno, come ho letto anche dei commenti, perché ovviamente poi mi sono fatto prendere anche da questa cosa, perché tutti quanti magari si sono fatti questo pensierino, però quasi impossibile da valutare. Ho capito, Antonio, e la sua convinzione qual è? La mia convinzione è che qualcosa di vero ci potrebbe essere, però ovviamente io non posso giudicare se non vedo direttamente. Però le posso dire se che non vede che cosa, mi scusi. Teorie, se non vede, diciamo, che cosa? Da qualche bravo montatore di video. Mm. Cioè, sono teorie proprio unite, collegate tutte insieme e alla fine ovviamente portano a una teoria che non è la prova, infatti ovviamente non vabbè, nessuno non ho capito se lei è convinto o non è convinto, non ho capito nulla. Sì, lei... io personalmente, guardi, mi hanno fatto convincere perché comunque cioè di convinto di che cosa? Io, scusi, io convinto appunto, di che cosa? Appunto del fatto che potenzialmente fosse diciamo una ferita, cioè ferite non ce ne sono, perché effettivamente vedere poi il viso di Berlusconi pulitissimo è ovvio che lui ferite non ce ne sono. Vabbè, non ci sono state ferite. Anche perché le posso dire solo una cosa, perché come dice quando è intervenuto il dottore prima, che ha detto che io conosco il chirurgo plastico, va benissimo, però anche nell'intervista di qualche giorno fa con un ministro, in pratica lei diceva, allora si è operato oppure è stato ritoccato, lui diceva no, che parlo di storace, sì. Diceva no, per me, a me non è ministro, non... comunque, no, ho capito Antonio, ma storace che ne sa, non è che Berlusconi ha comunicato di essere stato operato, che qualcuno sia intervenuto, evidentemente non lo sapeva. La ringrazio. Luigi dalla provincia di Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Io volevo fare una considerazione molto molto semplice. Ho sentito oggi la notizia al TG5 che lei ha passato poco fa in merito al fatto che è caduta l'accusa nei confronti di Del Turco, che se non ricordo male... No, è non è caduta anche... nessuna accusa, no, mi scusi Luigi, qui andiamo, cerchiamo di interpretare bene le cose. All'interno dei fascicoli, del fascicolo certo, su Del questo. Turco, sono spuntati fuori dei documenti che prima non erano conosciuti nemmeno alle parti. Tra questi documenti, per esempio, c'è anche un rapporto dei carabinieri, che avevano chiesto l'arresto di Angelini e di sua moglie, e riguardo a Del Turco si dimostrava in questo rapporto dei carabinieri che non aveva favorito le cliniche private, ma ha avviato un drastico taglio delle spese. Io volevo semplicemente prendere spunto. Non è che sono cadute le accuse a Del Turco, è una cosa diversa. Sì. Ma sono quello che volevo dire, io semplificavo molto, no? E il discorso è questo. Allora, senza voler prendere le parti degli uni o degli altri, ma semplicemente guardando le cose dal punto di vista del cittadino, io domando, quando potremmo avere uno Stato nel quale un giudice che dovesse prendere una cantonata, come sembra aver preso nei confronti di Del Turco, o magari in futuro di Piergianni Prosperini, o del signor Giuseppe Cruciani, per carità non glielo auguro. Speriamo di no. No, certo, ma la mia domanda è quando un giudice che dovesse aver preso una cantonata pagherà per lo sbaglio che ha fatto? Non lo so, guardi, mi sembra che per quello che riguarda il problema della responsabilità dei magistrati resta sicuramente un problema, è difficile da risolvere, non è facilissimo da risolvere. Non è che lo si risolve solamente con quel referendum famoso. È evidente che ci vuole altro, bisogna farle però alcune cose, non solamente pensarle. E per quello che riguarda Del Turco mi sembra, e Trifoggi mi sembra ancora presto, anche se certamente le frasi dette da Trifoggi in quel luglio del 2008 in conferenza stampa, quelle vanno sempre ricordate, perché là è una conferenza stampa, secondo me già un assurdo, conferenza stampa il giorno dopo o lo stesso giorno dell'arresto di Del Turco. Abbiamo il traffico, torniamo tra un attimo. La Zanzara. Siamo qui alle 20:16, andiamo con Roma. Marco, buonasera. Buonasera Cruciani. Senta, io sarò brevissimo. Quello, intanto le dico subito, sono un elettore centrosinistra, quindi non proprio berlusconiano, sì. Però quello, tutti questi discorsi sul complotto secondo me mi fanno ridere. Io ce l'ho con tutti questi complottisti che costantemente continuano a vedere trame dappertutto. La realtà dei fatti è che c'è stato uno squilibrato che ha lanciato questa statuetta. Poi diciamo che il nostro presidente del Consiglio ha un animo da cabarettista, per cui in un momento come quello ha avuto la prontezza di spirito di dire: se mi faccio fare una bella foto sanguinante me la rivenderò a destra e a sinistra, e quindi se è trascinato fuori la macchina la foto va bene, ma poi guardi, secondo me non c'è nemmeno quello, non è che uno sul momento, siccome ha preso una statuetta in faccia, va fuori e si mette sul predellino della macchina per farsi fotografare. Guarda, lei sottovaluta il suo presidente del Consiglio. Ma no, ma io non sottovaluto nessuno, non mi è sembrato dalla dinamica dell'azione di quello che è accaduto che Berlusconi esce fuori dalla macchina, si mette sul predellino per farsi fotografare. Adesso francamente Secondo me ce l'ha nell'aria. Ho capito, ma uno viene colpito da una statuetta, non è che sta lì a fare il cancan. Lo fa sempre. Vabbè, comunque, sì, lo fa il cancan, non c'è dubbio, però in quel momento uno viene colpito da una statuetta, secondo lei ha la prontezza di spirito per farsi per salire sulla macchina? Io non ce l'avrei avuta. No, ma lui non ce l'ha nemmeno intuisce. Berlusconi come Superman, allora. chiudo dicendo che tutta questa storia della rivolta delle comunitarie è molto triste, perché purtroppo quando c'è violenza è veramente triste, però secondo me dobbiamo tutti riflettere che questo Stato si appoggia tantissimo sul supporto di persone che vengono dall'estero, clandestine, più o meno trattate in maniera umana e in parte anche disumana, e secondo me dovremmo veramente darci tutti da fare per integrarli invece che costantemente. No, ma io sono d'accordo con lei, Marco, al 100%. Infatti, naturalmente la violenza deve essere respinta da entrambe le parti, al di là delle responsabilità nei singoli episodi, che poi saranno difficili da valutare. Chi ha iniziato e chi non ha iniziato, lì c'è una situazione di degrado sia per quello che riguarda la criminalità organizzata e chi sfrutta queste persone, sia per una presenza di clandestini evidentemente che esiste, che c'è. La ringrazio. Andrea da Milano, abbiamo ripresa la comunicazione con Andrea. Volevo intervenire in merito alla sì. dichiarazione di Savoy di ieri, prendendola come spunto iniziale. Vabbè, intanto insomma, se questa persona ha trovato diciamo l'inserviente per le pulizie sdraiatico, ha fatto bene, se era un fannullone, a licenziarla. Poi mi scusi, sbaglio, un attimo solo, Andrea, rimettiamo un po' le cose a posto da questo punto di vista, perché qui non c'è nessun fannullone. Un giorno un consigliere provinciale della Lega è entrato alle 6 di mattina in ufficio e ha visto una persona che si era appisolata, sarebbe questa famosa lavoratrice extracomunitaria, poi non so nemmeno, indagheremo la settimana prossima, probabilmente italianissima, l'ha vista lì appisolata, non mi pare un crimine di guerra. Dopodiché l'avrà detto a qualcuno, questo signore Savoy, che è il capo alla provincia di Trento della Lega, si è accorto dopo non so quanto tempo che la ditta aveva preso per lavorare in quella stanza, in quel posto, questa lavoratrice extracomunitaria, forse di religione musulmana, non so quale interesse possa avere il fatto che sia di religione musulmana, e allora ha protestato dicendo no, io questa qua non la voglio perché è musulmana, qui abbiamo dei segreti, ce li possono carpire, ce li possono rubare, noi abbiamo una politica anti-Islam e dunque siamo in pericolo. Una cosa ridicola. Grazie per la precisazione. Allora dico, mi correggo subito, dico, ha sbagliato anche allora sul fatto di pensare che questa fosse una persona da licenziare, a maggior ragione per il fatto che questa persona sia di un'altra religione, di un'altra cultura. Non trovo il nesso logico per cui si possa. No, ma tra l'altro, mi scusi, non è che la voleva licenziare, perché non è arrivato fino a proporre licenziamento, naturalmente, perché non è il titolare, non è il titolare dell'azienda. Fare no. Le pulizie come qualsiasi altra persona, se non ho capito male, è islamica, perché è ritenuta pericolosa. Ecco, questa è un'idiozia di proporzioni colossali. Mi sembra una grande idiozia. Tra l'altro c'era una grande confusione. Ieri, quando è intervenuto qui a Radio 24, da noi alla Zanzara, il signor Savoy ha detto: beh, io a casa mia le pulizie le faccio fare a chi voglio. E no, caro Savoy, non è casa tua quella, è la casa... al limite della provincia di Trento, poi sarà la tua stanza, ma potrebbe essere, se non vieni rieletto, sarà la stanza di qualcun altro. Poi, seconda cosa, sappiamo che la Lega ormai si erge a paladina della difesa dell'identità dei popoli, soprattutto del nord Italia, a volte anche addirittura a me della religione cristiana, questa cosa mi mette a volte un po' i brividi, ma io non capisco anche la persona che poi prova simpatia per questo modo di pensare, cioè che cosa pensi di ottenere, perché non ho mai visto nessuna identità, nessuna cultura che si difenda con la paura. Cioè, vabbè, adesso siamo su un discorso un po' più non lo so, di però carattere generale, magari come provocazione, ma cioè, mi chiedo dove possa arrivare questo modo di pensare. Non lo so, me lo chiedo anch'io. Secondo me accelera solo la nostra recessione culturale e la nostra recessione identitaria, perché non possiamo rapportarci con gli altri con la paura. Recessione la paura culturale dell'altro. Identitaria sono parole un po' complicate da afferrare, va bene, anche da spiegare. La ringrazio, anche perché la recessione ce l'abbiamo, se ci aggiungiamo anche quella culturale, quella vera era la recessione economica, la recessione culturale è un concetto un po' più complicato, diciamo così, per usare un eufemismo. Allora, piovono rane, Alessandro, buonasera, ciao. Buonasera. Buonasera, buonasera, ciao. Io ti seguo sempre e seguivo anche stasera che hai un po' tirato in ballo il mio blog. Sì, perché lo leggo naturalmente e ogni tanto ci sono degli spunti polemici interessanti. Però io non ho condiviso che cosa? Il fatto che, al di là delle considerazioni generali sull'apparizione di Berlusconi, quello è un altro discorso, il giaccone, che poi in realtà, come sai, non è della Marina Russa, bensì della squadra di wrestling, di lotta di Putin, ma insomma non cambia la cosa, è un giaccone regalato da Putin evidentemente a Berlusconi. Al di là di questo, tu dai per certo il fatto che ci sia stata un'esagerazione nelle conseguenze dell'aggressione, i 3 mesi di prognosi. Non so se hai sentito prima l'intervento di quel medico. Ho sentito tutto. Dimmi. Ma guarda, il mio intervento in realtà era anticospirazionista. Io sono un anticomplottista, non credo assolutamente a tutta la teoria del complotto che circola da parecchie settimane. Sì, no, questo lo so. In rete. E quindi io ho cercato di far capire, e vorrei ancora, per questo mi sono permesso di intervenire, che il miglior amico del cospirazionismo è la scarsa trasparenza ed è la scarsa, come dire, certo, la scarsa accettazione di dei dati a confronto con l'immagine. Io dico sempre che Berlusconi è rimasto a una pena del contrappasso in questa vicenda Tartaglia, ha creato la sua fortuna sullo shine, sull'apparenza, sulla parvenza, sulla fabulazione, e adesso una volta che ci succede una roba vera nessuno crede che sia vera, o molti credono che non, parecchi, alcuni, non so quanti, credono che non sia, che non sia vera. Ma quello cos'è che ti ha stupito? La guarigione immediata? No, è una guarigione. Io ho motivo di ritenere che tutta la strategia mediatica, è una mia opinione ovviamente, la strategia mediatica messa in atto da Berlusconi sia una strategia di accurato utilizzo. Io non sono d'accordo con lei, Milan, quando lei dice che Berlusconi non ha avuto, è uscito sul predellino senza fare un calcolo mediatico. Forse lei ha un'idea che io non condivido di Berlusconi. Berlusconi è un grandissimo utilizzatore di mass media. Io sono assolutamente convinto che Berlusconi sia uscito per farsi fotografare. D'altro canto non c'è nessuna altra ragione per violare così apertamente le regole base della sicurezza. Guarda, Alessandro, no? io penso una cosa, che il rapporto tra Berlusconi e le sue guardie del corpo sia un rapporto molto diverso rispetto alla questo comanda lui, non comanda le esatto, guardie del questo, corpo. Questo assolutamente, però, penso però che violare sia questa regola per uscire e farsi fotografare è una mossa mediatica. Beh, farsi fotografare è una cosa che dici tu, non è provata. È una cosa che non si vede altro motivo per uscire sul ma no, ma lui là si rivolge, si guarda intorno, ma non credo che lui avesse, come dire, desiderio di vedere un panorama. Comunque, al di là di questo, abbiamo opinioni diverse su queste, ma no, vabbè, io normale. Non credo che si possa, per carità, che si possa parlare di complottismo se si ritiene, a buona ragione, che vi sia stata nel referto iniziale del dottor Zangrillo, che abbiamo tutti letto, che parlava di frattura del setto nasale, di una tutta una serie di diagnosi che sono state ufficializzate dall'ospedale San Raffaele di Milano, che come sappiamo appartiene ad Overzè, che come sappiamo è un amico molto intimo di Berlusconi. A Milano si dice, io ho visto a Milano sia pochi anni fa, che di fatto il San Raffaele è di proprietà di Berlusconi, seppur indirettamente. Ecco, questa scarsa trasparenza, questo fatto che è andato dall'ospedale del suo amico, si è fatto fare una diagnosi che nessun altro ha potuto verificare, e che poi dopo 25 giorni, dopo una prognosi data di 90, perché la prognosi di 90 non l'ho inventata io. Ma la prognosi non significa che uno non può apparire in pubblico dopo 20 giorni. No, non può apparire in pubblico, però mi sembrava molto sgarzellino l'altro giorno in Provenza, perché sono felice per lui, mi auguro che sia benissimo, io non sono un violento. Detto questo, che dopo 24 giorni, a fronte di una prognosi di 90, sia così in forma, mi fa molto piacere per lui, ma induce a ritenere... Non mi sembrava che era anche in forma, però... Non in modo complottista, insomma... Ma sì, diciamo, ma... Era uno che non aveva passato neanche un terzo della prognosi che gli era stata data. Questo può indurre a ritenere, senza accuse di complottismo, a mio modestissimo avviso, che ci sia stato un filo di esagerazione utilizzata a fini politici, così come l'apparizione sul predellino. D'altro canto, lo vediamo, scusami, se è vero che verranno utilizzate le foto di Berlusconi sanguinante per la campagna elettorale, la discussione si chiude. Vabbè, quello è un altro discorso, però. Quello no, è un altro discorso. È sempre l'utilizzo. Io spero che non, succeda, guarda, te lo dico molto io sinceramente. Io ho l'impressione che sia stata molto utilizzata questa cosa. Non sono un complottista, ho fatto un post contro il cospirazionismo in rete, perché credo che Berlusconi sia stato veramente colpito da un oggetto contundente, ma ritengo che il miglior amico del complottismo sia proprio la scarsa trasparenza e l'esagerazione. E che ci sia stata esagerazione nella prognosi di Zangrillo, amico personale di Berlusconi, che era in Piazza del Duomo con lui quando è stato aggredito, che lavora a San Raffaele, che è l'ospedale più vicino a Berlusconi che si possa posso immaginare. Insomma, questo forse non ce lo meritiamo. Non lo so, guarda, io sono francamente, pur non è che ho i paraocchi di fronte alle cose, dunque cerco di guardarle per quelle, naturalmente con la mia, con ognuno le guarda con la propria lente di ingrandimento le cose. Ti dico che ti ringrazio. No, no, grazie a te di essere intervenuto. Grazie. Io penso invece che certamente ci sono delle strumentalizzazioni politiche, ci sono state anche in questa vicenda, nel dibattito politico successivo, quello sulla violenza, quello sull'odio, e non c'è dubbio. Però sulla prognosi, insomma, pensare che là ci sia tutto un complotto tra il San Raffaele, il medico personale di Berlusconi, insieme decidono, esageriamo le conseguenze dell'aggressione a Berlusconi, così possiamo comunicare, possiamo puntare sulla gravità di quello che è accaduto. Adesso, francamente, questo mi sembra anche perché non è che hanno dato per morto Berlusconi. 3 mesi di prognosi, come ci ha spiegato prima quel dottore, si danno per cose di questo tipo. Poi, dopo 20 giorni, comunque è un colpo in faccia, non è che si può camminare dopo un colpo in faccia. E questo Berlusconi ha fatto, camminava, non era nemmeno particolarmente in forma dall'espressione che ho visto nelle foto. Eccoci, 20:32, 800 24 00 24, messaggio al nostro amico Cecchi Paone, Alessandro Cecchi Paone, perché c'è una notizia che immagino lui saluterà con soddisfazione, con gioia, che viene dal Portogallo. Anche il Portogallo ha legalizzato le nozze tra persone dello stesso sesso, dopo Belgio, Svezia, Norvegia, Spagna, Olanda. Anche il Parlamento portoghese ha approvato un disegno di legge del governo socialista che legalizza l'unione tra omosessuali. Ha respinto la proposta di permettere però l'adozione tra coppie dello stesso sesso. Il primo ministro Socrates ha commentato la decisione come un momento storico per il Portogallo, che da anni combatte contro la discriminazione. Le solite parole. Bisogna ricordare che fino all'82, dunque dopo la fine della dittatura militare, il Portogallo era in una situazione che era quella di considerare l'omosessualità un reato perseguito per legge, un reato fino al 1982 in Portogallo. Adozione per le coppie omosessuali in Portogallo. Dove andiamo? Andiamo a Siena. Lorenzo, buonasera. Buonasera. Dica. No, volevo ribadire un fatto che mi sembra che la sinistra, con questa citazione di Berlusconi, sia veramente la frutta. Insomma, non è che si può. Che senso, scusi? Ma insomma, invece di dare la doverosa solidarietà al Presidente del Consiglio eletto dagli italiani, è questo che la sinistra e Bersani anche si devono mettere un po' in testa. Doverosa solidarietà a una persona che è stata aggredita. Ma scusi, Bersani è andato a trovare Berlusconi, ha espresso solidarietà, di che stiamo parlando? Qui stiamo parlando di altre cose, di cose che escono sul web, di persone che pensano a complotti, a trame oscure, a cospirazioni. Le persone che pensano a queste cose sono veramente... Vabbè, ma per fortuna c'è la libertà di pensare qualsiasi cosa, dopodiché ne parliamo, ma la sinistra, quindi l'istituzionale, non c'entra nulla, abbia pazienza, a parte alcune uscite... Nei primi giorni dopo l'aggressione a Berlusconi. No, volevo ricollegare al discorso anche di Del Turco, mi sembra molto grave quello che è successo oggi. La sinistra centrale in questo senso, che magari quando Bersani sta parlando di leggi ad personam, dobbiamo parlare anche di quello che succede ad personam su Berlusconi. Ecco, quindi diciamo di collegare tutto questo. Sì, non capisco cosa c'entra Del Turco con l'aggressione a Berlusconi, ma facciamo finta che ci sia un collegamento. I titoli del TG2. Barricate e scontri a Rosarno fra residenti e immigrati, 2 extracomunitari gambizzati, altre 2 colpiti con spranghe, inviati rinforzi di polizia e carabinieri. Napolitano, fermare senza indugio la violenza, Maroni, troppa tolleranza verso i clandestini, Bersani, il ministro non faccia lo scaricabarile, tetto del 30% per gli stranieri nelle scuole. Sfumano le accuse verso Del Turco, l'ex presidente della regione Abruzzo dice al TG2: io ho tolto i soldi alle cliniche private, altro che tangenti, ora voglio un giudice che decida. Niente tasse comunali per 3 anni a imprenditori e commercianti che denunciano il pizzo, mantenuta la promessa fatta un anno fa dal sindaco di Ercolano, dopo le denunce arrivano le condanne. Non accennano a diminuire le piogge che continuano a ingrossare i fiumi, soprattutto in Umbria e Lazio, a Roma la piena del Tevere attesa fra sabato e domenica, evento fra curiosità e timori. Allora, dal TG2, interviste sulla vicenda di Rosarno, sentite. Fare che cosa? per raccogliere i mandarini, anche arancia. Oggi si respira rabbia, tensione, paura. Hanno le valigie pronte per andare via questi 400 africani venuti in Italia per cercare una vita migliore. Un giorno, quando fare quello che è venuto per farlo, torno a casa mia. Cioè? E c'è, ho venuto a cercare il paradiso qui. E non l'hai trovato? Mi spiace, è arrivato rotardo. Scusi. Rotardo, è arrivato l'inferno. Rotardo da Italia. L'inferno qui. Gli immigrati che protestano a Rosarno, braccia spesso clandestine, spesso in viaggio fra le regioni del sud. Donato Placido. Il mercato delle braccia apre ogni mattina all'alba. Gli immigrati si radunano in luoghi prestabiliti e aspettano i caporali per un ingaggio giornaliero. Questi lavoratori arrivano prevalentemente dall'Africa magrebina. Senza di loro molte attività agricole si fermerebbero. Vivono in posti che è difficile anche solo immaginare. Qui siamo nella piana del Sele, in Campania, zona di agricoltura intensiva. In edifici come questi dormono, mangiano, soffrono esseri umani che tutti preferiscono ignorare. Questa invece è la statale 18, è la strada che da Napoli attraversa la Campania e la Calabria. Passa anche per Rosarno, è la strada degli scontri di queste ore. È su questa via che si muovono, a seconda del periodo dell'anno, i braccianti extracomunitari. Una perenne migrazione regolata dalle necessità dell'agricoltura. Adesso molti di loro hanno lasciato la Campania per andare nella piana di Gioia Tauro e quindi anche a Rosarno per la raccolta degli agrumi. La paga è la stessa, le ore di lavoro non cambiano e non cambiano le inumane condizioni di vita. Una bomba sociale pronta a esplodere. Altissimo il numero degli irregolari. Secondo la CGA di Mestre, nelle regioni del sud sono più di 1.300.000. In Calabria la percentuale è più alta. Beh, insomma, questa è la situazione in questo servizio molto bello, molto sintetico e nello stesso tempo significativo del TG2 della sera. 1.300.000 gli immigrati clandestini nel sud, soprattutto avete sentito, il problema è quello, cioè di spezzare questa, di intervenire su queste illegalità che ci sono diffuse, al di là poi dei fatti singoli, delle violenze di queste ore. Dove andiamo? Andiamo a Napoli, Andrea. Pronto, buonasera Crociano. Buonasera, dica. È un piacere risentirla. Senta, io volevo intervenire sulla questione dei due deputati del PD che condanna incalcolabile per il partito, io sono un elettore di centro-sinistra, condanna incalcolabile per il partito usciranno dal medesimo, mi riferisco a Carra, su cui lei ieri ha fatto quello scoop, occhio al Pulitzer e alla Binetti. Forse è stato già detto, io purtroppo la sento a sprazzi per motivi di lavoro. Volevo semplicemente osservare... perché non spazzano via l'ipocrisia? Questi signori potevano uscire dal partito e perdere la poltrona quando i radicali furono inseriti nelle liste del PD in un altro momento. Oppure potevano decidere di non essere eletti. Ma il problema è dicendo la stessa cosa, esattamente. Adesso fare questa questione, sollevare questa questione di incompatibilità, perché la Bonini è un anticlericale, non so, forse hanno paura che da governatrice del Lazio tolga i territori al Papa, non lo so cosa temono questi signori, ma sollevarla adesso, quando a livello locale lei sa meglio di me che l'identità conta molto di meno perché si fa un lavoro sul territorio, mi sembra veramente ipocrita. Guardi, non credo che abbia fatto, siccome si parla molto di questa storia della Bonino anticlericale, eccetera, eccetera, non credo che abbia fatto un grande servizio alla causa della Bonino, però nemmeno il manifesto, che oggi a questo fondo di apertura le prime parole sono queste: sarebbe una novità assoluta, per la prima volta nei territori dell'ex Stato Pontificio. Appunto, si tratterebbe di ingoiare un rospo non centrista. La candidatura di Emma Bonino alla presidenza della Regione Lazio, prepotentemente plausibile, conterrebbe dunque questo inedito fascino. Io forse nella Bonino mi candiderei al sindaco d'Avignone a questo punto. Sì, no, però anche immaginare... Vabbè, capisco benissimo, ma voglio dire, le parla con un elettore di centro-sinistra che vive in una realtà, quella campana, in cui ha sindrome di Tafazzi, siamo stati fenomenati per 15 anni, quindi non... Cioè, attribuire alla Bonino, da parte del manifesto, vuol dire il timbro della candidatura antipapalina, adesso questo mi sembra francamente una cosa ridicola. La politica ha sempre interpretato, scrive Sandro Medici, con perniciosa pigrizia a Roma, una specie di sacrestia vaticana, inchiodati i Colli Albani, la Tuscia, la Sociaria, la Sabina, il Circeo, gli Aurunci e i Lucretili, il Golfo di Gaeta, le Isole Ponziane, la Montagna Reatina, la Pianura Pontina, al ruolo di feudi diocesani. parte dove sta scritto non si capisce. E qui una delle ragioni che condanna il Lazio, nonostante gli innegabili sviluppi economici e sociali, ha un ruolo subalterno nel panorama nazionale. Il peso della storia, certo, ma anche di una cultura politica conformista e pigolante. Dunque, secondo Medici, secondo il manifesto, i motivi di un declino o comunque di una situazione difficile nel Lazio o del ruolo subalterno del Lazio nei confronti di altre regioni sarebbe del Papa, della presenza del Papa, del Vaticano e della Chiesa. Insomma, questa è l'analisi del manifesto, francamente mi cascano le braccia, o no? La spaventosa ipocrisia di questi due soggetti, che francamente non so quale peso politico abbiano, massimo rispetto per le persone, ma non ne conosco il peso politico effettivo. Ma chi lei dice? Io mi riferivo ai due transfughi prossimi ventori, Labinetti e Carra. Merkel e Sarkozy del PD, insomma. E quindi mi sembra davvero un comportamento ipocrita, perché ripeto, bastava rinunciare alla Poltrona, avrebbero dato un grandissimo segnale, bastava farlo due anni fa, no? Va bene, Andrea, beh, insomma, si può anche pensare di fare una battaglia all'interno di un partito, naturalmente rendendosi conto che poi si è una minoranza e che dunque valgono regole che dovrebbero valere un grande partito che decide la maggioranza. Giuseppe da Genova, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera Giuseppe, dica. Buonasera. Io volevo fare un'osservazione a proposito di quello che ha detto Giglioli, sì. Perché secondo me una persona che prende un mattone in faccia minimamente riceve uno shock che dura da poco, 30 secondi, un minuto, ma è facile pensare che reagendo su base istintiva non possa uscire per farsi fare fotografare come lui pensa. In generale, poi, scusi Giuseppe, però farsi uscire per farsi fotografare, lei dà è una sorta di assunto che deve essere però dimostrato, cioè, tutto parte dalla considerazione è uscito per farsi fotografare, discutere. Ho detto il contrario, ho detto che bisogna pensare che una persona che riceve un mattone in faccia subisce uno shock, reagisce su base istintiva ed è assurdo, stupido. Pensare che si esponga per la fotografia. Ho capito, no, ma sì, avevo capito male. La seconda è questa, vedo che in generale sì. Le persone che le telefonano sono orientate molto a sinistra, ma non mi risulta comunque. Il tema, l'insieme dei ragionamenti che fanno, la psicoticità che io rilevo in questa accesa insopportabilità di Berlusconi, secondo me si rivela si risolve in uno spot a favore di lui. Penso che questa trasmissione a Berlusconi gli porti bene, ecco. Non lo so, ma è un'impressione, no, statistica mia. La ringrazio. Giuseppe, dove andiamo? Andiamo a Milano, Davide. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Voglio ritornare anch'io sulla vicenda Berlusconi e anche Napolitano, in verità, perché una considerazione facevo. Berlusconi non ha usato per niente, anzi, ha usato una compostezza che mi ha addirittura sorpreso questa vicenda, perché avrebbe potuto benissimo, cosa che invece non ha fatto, utilizzare il messaggio dell'ultimo dell'anno suo e non di Napolitano e fare una specie di improvvisata conferenza stampa, neppure quella fatta, che generalmente è una bella passerella per tutti i presidenti del Consiglio, lui ha sempre usato molto bene. Quindi se lui fosse uscito con un'intervista, magari anche registrata, mezz'ora prima di Napolitano il 31 dicembre, sì, avrebbe registrato degli ascolti enormi, avrebbe magari fatto vedere un piccolo segno, non fosse altro per lucubrare sul suo segno, tutti l'avrebbero guardato, quindi avrebbe potuto utilizzare moltissimo questa cosa che gli è successa e per me non l'ha utilizzata per niente, per scelta sicuramente, per una scelta probabilmente di compostezza. Invece mi ha lasciato un attimo solo Davide, perché prego. La vicenda del Turco al TG2, sentiamo, forse c'è anche del Turco ai magistrati raccontò di essere stanco di ungere presidente e assessori. La procura ha chiesto per due volte più tempo per indagare e fra le carte depositate spuntano ora tre rapporti di Carabinieri, Guardia di Finanza e Banca d'Italia, secondo cui Del Turco non ha mai preso tangenti né favorito le cliniche di Angelini. Anzi, l'ex presidente avrebbe ordinato un drastico taglio ai finanziamenti elargiti proprio alle strutture di Angelini. Per Del Turco è quasi una liberazione. Nella vulgata collettiva sembra che questa giunta stesse regalando dei soldi ai privati e adesso si scopre che noi abbiamo tolto 50 milioni di euro e c'è una lettera del presidente della Confindustria delle aziende sanitarie abruzzesi, dell'AIOP, del dottor Pierangeli, che protesta contro la giunta perché dice che siamo troppo severi nei confronti delle cliniche private. Ma il processo resta in piedi. Noi abbiamo trovato ulteriori riscontri alle dichiarazioni di Angelini e alle altre prove che avevamo, quindi siamo assolutamente tranquilli. Ma Ottaviano Del Turco non demorde e manda segnali politici. Auspico un processo breve anch'io, per me e per tutti quelli che stanno come me. Processo breve, dunque processatemi subito, voglio arrivare subito a una definizione della mia posizione giudiziaria. Questo dice Del Turco. Riprendiamo con Davide da Milano dopo il traffico. Un attimo solo, Davide. Sì, 20:47, 800 24 00 24. Torniamo in onda per l'ultima parte della Zanzara. Sempre ascoltatori, ci sono diversi già collegati. Eravamo con Davide da Milano. Prego. Io rincaro la dose contro Napolitano, perché penso che in qualunque paese civile, anche in una Francia dove c'è la coabitazione, come era con Mitterrand e Jospin, no? Con Chirac e Jospin, che non si potevano vedere, il Presidente della Repubblica avrebbe fatto un intervento in apertura del proprio discorso annuale di saluto e di augurio al Presidente del Consiglio, colpito comunque. Invece Napolitano ha citato l'episodio come un grave episodio a metà del discorso. Vabbè Davide, però adesso non è che si può rimproverare a Napolitano il fatto di non aver aperto il suo discorso di Capodanno, se fosse stato il Santo Padre, ad esempio, nelle condizioni di Berlusconi, sicuramente avrebbe aperto con quel tipo di riferimento. Questo è fuori discussione. Ma comunque, insomma, io penso che... Mi sembra un non problema, francamente. Prego? Mi sembra un non problema, però. Va bene, comunque, allora, diciamo comunque che Berlusconi non ha utilizzato per niente questo fatto che gli è successo, e questo è fuori discussione, perché non ha fatto assolutamente niente di strano, di cabarettistico, proprio niente. E avrebbe potuto farlo qualunque giorno di questo lungo periodo. Va bene, grazie. Massimo da Lecce, buonasera. Buonasera, signor Cruciani. Dica. No, io volevo soltanto dire questa cosa. Cioè, secondo me il gesto di Berlusconi di uscire dalla macchina così è stato un gesto istintivo, dettato magari dalla rabbia del momento, cioè, per cercare di capire chi fosse stato a colpirlo. Cioè, mi sembra che tutta questa montatura di complotto mi sembra un'esagerazione. Cioè, io mi metto nei suoi panni, se fossi stato io ad essere colpito, cioè probabilmente anch'io un attimo dopo, rendendomi conto di quello che era successo, mi sarei affacciato per cercare di capire chi è, magari se l'avessi avuto vicino gli sarei saltato addosso per vendicarmi, insomma. Quindi mi sembra veramente una buffonata tutto questo complotto, che Berlusconi sia uscito per farsi vedere, che poi magari dopo ci stia, voglio dire, giocando un po' sopra su questo, però il gesto istintivo per me è stato soltanto dettato dal fatto di capire chi fosse stato a colpirlo, insomma, solo per questo. Volevo soltanto dire questa cosa. Grazie. Marco, Reggio Calabria, buonasera. Sì, pronto? Dica, Marco. Pronto? La sento, la sento. Cruciani, buonasera. Dica. Buonasera a tutti i radioascoltatori. Volevo semplicemente fare un commento, sicuramente non sono un medico, ma ho avuto la possibilità di vedere alcuni fotogrammi relativi al presidente Berlusconi dopo che aveva ricevuto questo oggetto nel viso. Ma mi sembra alquanto strano che nell'abbigliamento non c'era una sola goccia di sangue. Cioè, voglio dire, quando una persona viene ferita, a parte il fatto che è uscito dalla macchina, mi è sembrata tutta un atto pubblicitario, ma io a questo punto mi deve credere, sarò anche anacronistico, non lo so, ma mi sembra che sia stata tutta una messa in scena. Quando si fa vedere Berlusconi fuori dalla macchina, vede che c'è del sangue nei denti, ma dopo 15 secondi, ma è possibile che una persona che riceve un taglio nello zigomo? Cioè, dico questo perché è successo che anche mio figlio ha subito una ferita simile per un colpo ricevuto. Ma mi creda, ma il sangue, sapete come gli usciva? Cioè, gli abiti erano zeppi, cioè, l'ho dovuto portare immediatamente all'ospedale. Marco, no, ma la sua telefonata, ho capito benissimo, la sua telefonata è la dimostrazione di come quando un fatto del genere accade a grandi personalità o comunque a persone di potere, persone che hanno in mano dei paesi, si sviluppano poi le teorie più disparate. Ci sono persone che analizzano fotogramma per fotogramma dicendo non vedo il sangue sulla giacca, allora chissà da dove viene quel sangue, hanno esagerato, il taglio è così, il taglio è colà, e poi lui si alza in piedi, e perché non c'è il sangue sui vestiti, perché non è zuppo di sangue in faccia, insomma. È un classico, non bisogna nemmeno troppo scandalizzarsi né stupirsi. Matteo, provincia di Vicenza. Buonasera, dottor Cruciani, complimenti per la trasmissione. Volevo intervenire in effetti su questa cosa, cioè sull'aggressione a Berlusconi, e seguendo un po' il suo ragionamento, la mia sensazione è che effettivamente tra colpevolisti e innocentisti, cioè tra quelli che vedono il complotto perché tendenzialmente sono elettori di centrosinistra e elettori di centrodestra che invece dicono no, è tutto vero, eccetera, la posizione, una posizione mediana e seria sarebbe quella di riconoscere che probabilmente a scopi politici questa aggressione non ha cambiato di un solo voto l'opinione degli italiani, non sposterà quelli che pensavano che Berlusconi era il male assoluto e non li indurrà a votarlo nelle prossime elezioni, non sposterà l'opinione di quelli che erano a favore suo. Beh, probabilmente è così, Matteo, lei ha ragione. E dunque lei dice questa considerazione, non lo sappiamo ancora perché non è che abbiamo dei sondaggi da questo punto di vista, ancora troppo presto, però insomma l'indicazione può essere anche quella, ma è la prova provata che anche se ci fosse stata tutta una macchinazione per far uscire Berlusconi da una situazione complicata dal punto di vista mediatico, di comunicazione, gli scandali, i processi, eccetera, eccetera, non è che poi questa macchinazione abbia portato in una direzione positiva. La ringrazio. Emanuela da Piacenza, buonasera. Sì, buonasera. Intanto grazie per avermi fatto intervenire. Prego, volevo dica. Dire due semplici cose. La prima è che mi sembra che la sinistra debba ringraziare Berlusconi, perché senza Berlusconi non saprebbe di che cosa parlare, penso. Mi sembra un po' che ci sia il nulla, ecco, non ci sia un'opposizione seria, costruttiva, e tutte le energie sprecate per fare lucubrazioni, analisi di fotogrammi, ragionamenti vari su cose strane che mi sembrano altamente improbabili, perché non vengono utilizzate appunto per fare veramente qualcosa di costruttivo, una discussione costruttiva, un'opposizione seria, ecco. E poi mi stupisce il fatto che ci si concentri su quanto più o meno sia stato grave, ecco, questa aggressione, gli effetti di questa aggressione a livello fisico, quando in realtà bisogna concentrarsi sul fatto in sé, che in realtà è un fatto molto grave, e questa cosa viene un po', diciamo, messa da parte. È assolutamente un gesto che va comunque condannato in ogni caso, indipendentemente dal fatto che l'abbia subito un uomo di destra o che lo possa un domani subire qualcun altro. Sì, ma la condanna non è in discussione, naturalmente, però insomma, poi è normale che oneri e onori, come diceva ieri Emma Bonino, intorno a un attentato, chiamiamolo così, nei confronti di un presidente del Consiglio, di un uomo di potere, ripeto, di un uomo di governo, poi ci siano illazioni, ipotesi, analisi del comportamento successivo del Presidente del Consiglio, ma questo lo trovo assolutamente normale. Poi si può anche discutere delle cose che si scrivono. Bene, Alessandro da Roma, buonasera. Buonasera, senta, io non sono tanto d'accordo, parlo con riferimento al soggetto degli scontri giù in Calabria, fra extracomunitari e, sì, e locali, come. Ecco, lei ha definito, cioè, in qualche modo questi problemi diciamo geograficamente ristretti ad una certa area geografica. Beh, la dinamica è quella, cioè solamente in alcune zone del sud, in particolare in questa stagione in Calabria, ci sono certe situazioni di degrado, di illegalità nella gestione anche del lavoro spesso clandestino di questi immigrati, o no? Sì, sì, ha ragione, però mi permetto di ricordare, sicuramente non ha nemmeno bisogno di questo, però che tempo fa a Castel Volturno furono, sì, fatti fuori, sparati sette africani in un colpo solo. Ora lei potrà sempre dire che questa è una questione abbastanza locale, però perché dico questo? Faccio una provocazione: se andiamo nel nord non si fanno fuori questi non si prendono le doppiette, si fanno fuori gli africani. Però è un problema, secondo me, di etnia. Solamente adesso ci si accorge. Solamente adesso non ho capito l'etnia, che significa? Un problema di etnia. È un problema di etnia. Improvvisamente la gente, intendo dire, no? Gli italiani si guardano intorno e vedono che ci sono etnie diverse dalle loro. No, però mi scusi, anche lì bisogna distinguere. I fatti di Castel Volturno sono molto diversi rispetto a quelli rispetto a quelli di Rosarno adesso. Va bene, Alessandro, la ringrazio. Dove andiamo? Massimo da Genova, velocemente, perché stiamo per concludere. Massimo, buonasera, un flash. Buonasera. Senta, premesso che io disistimo personalmente il personaggio Berlusconi, ecco, come premessa. Non l'uomo, perché l'uomo non lo conosco, ma il personaggio sì. Sì. Però quando si parla di complotto, secondo me i complotti devono avere degli argomenti molto forti per cercare di dare delle interpretazioni molto poco probabili dei fatti che sono successi. E questo è l'ennesimo caso in cui mi pare che queste argomentazioni non ci siano. I fatti sono che una persona ha dato in faccia a un'altra persona una statuetta, e quindi ci sta tutto, insomma, che questa persona possa essersi rotta il naso, no? Certo, certo. Mi sembra, ecco, quindi mi sembra. Va bene, Massimo, la ringrazio. Abbiamo concluso, allora 30 secondi anche per Marco. Marco da Salerno. Buonasera, sì. Io volevo intervenire su un argomento un po' diverso. Sono stato per qualche giorno in Austria, siccome parlo tedesco abbastanza bene, commentavo con le persone, tra l'altro parenti e amici, i quali mi chiedevano che cosa ne pensavo io di Berlusconi, insomma. Vabbè, della sua esperienza in Austria, dei suoi colloqui con gli amici e coi parenti, magari ci parlerà lunedì. Ci sentiamo la settimana prossima, 18:30. Ciao. Radio 24. La passione si sente. Parte lesa e diventi un professionista del risarcimento danni. Partelesa.it vi ha presentato La Zanzara.